sopra un tufo, tutto bianco, ci sta un gufo, molto stanco ad essere franca, anche un po' stufo. Il 2015 è andato meglio del 2014. È andato meglio delle nostre previsioni nel 2014. Lo dice la realtà dei fatti. È stato un buon anno. È stato un anno che ha visto in particolar modo, in alcune delle principali sfide che sembravano impossibili da vincere, un segno che finalmente torna ad essere un segno positivo. Si diceva un anno fa il Jobs Act non sarà mai attuato e approvato, il tasso di disoccupazione è al 13,2%, adesso se guardate i dati dopo l'approvazione del Jobs Act il tasso di disoccupazione è ancora molto alto, troppo alto, ma è all'11,5%, 300.000 persone hanno trovato un lavoro, i mutui, dato di ieri dell'ABI, sono al più 97% rispetto allo scorso anno. L'Italia torna ad essere quello che deve essere. Un grande paese che può in qualche misura segnare, lasciatemelo dire, la vittoria della politica contro il populismo. Se dovessi fare un titolo direi politica batte populismo in Italia nel 2015, 4-0. Eccoci qua, buonasera a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati col Si può fare da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buonasera. Insieme fino alle 21 all'800 24 00 24, e un saluto anche da Miriam Lucchetti, Emanuele Brignoli e Paolo Corleoni in regia. Siamo insieme fino alle 21. I nostri contatti, diciamo. Io mi sento un po' l'audio un po' strano, Paolo? C'è qualcosa da mixare in regia, da mixare. Comunque i nostri contatti su Facebook sono Si può fare trattino Radio 24, e invece su Twitter sono @ Si può fare 24, oppure il nostro account personale, il mio è @ Carlo Gabardini. Il mio @ Ale Maurizi. Al 349-238-6666, lo sapete, c'è anche WhatsApp e siete sempre numerosissimi. Potete commentare tutto quello che volete. Prima informazione di servizio. Ieri il gioco lo ha vinto Roberto da Firenze, che aveva chiamato per il suo viaggio strano, il viaggio più assurdo, la mobilità, diciamo, alternativa più impensata. È quello che aveva fatto. Il treno era tornato a retromarcia. Visto che avevamo parlato anche del treno di Vercelli, che invece era passato senza fermarsi, questo è passato senza fermarsi, ma poi è tornato indietro. È tornato indietro e li ha presi. In Italia si può fare tutto. È un'informazione di servizio, ma è anche una notizia di giubilo. Esatto. E invece questa sera vi aspettiamo con. Cosa vi proponiamo? La notizia più bella. Ieri c'è stato Saviano che ha parlato di notizie belle e brutte, ha parlato di immagini, di foto. Ognuno può avere le sue, insomma. Ma no? Perché in realtà era molto Si può fare la trasmissione di Saviano ieri, perché è il fatto di trovare in delle tragedie, anche in delle notizie terribili, comunque trovare anche dei modi in cui si può fare, si possono trovare delle soluzioni. Quello può essere, possono essere anche cose personali. Ho trovato un lavoro, mi è nato il figlio, mi è nata la figlia. Oppure parleremo per esempio con gli organizzatori del concerto I Mille per i Foo Fighters, no? Un'impresa stranissima. Queste mille persone si sono radunate a Cesena a suonare un concerto in contemporanea, mille strumenti per chiamare i Foo Fighters, la storica super che ha accettato andare a suonare. Cioè le cose anche più impossibili, le belle notizie. 800 24 00 24, la vostra più bella notizia dell'anno, quella che ci convincerà di più avrà un premio, come sempre. Scusa, vi ricordo anche l'SMS, perché giustamente tu guardi WhatsApp, invece io leggo gli SMS al 349 238 6666. Ma sentiamo ancora Renzi, che si è presentato col gufo stampato sulle slide. Questa volta c'era il gufo, sta un po' venendo a noi questa cosa del gufo, perché ci sono stati molti commenti. È riuscito a ribaltarla in qualche modo, ormai l'ha fatta sua, però questa retorica che voi siete gufi eccetera, cioè sta un po' stufando. È un po' facile a volte per zittire, basta che uno dica ma io non sono molto d'accordo, sei un gufo, vabbè, è un po' quella roba di quelli che portano male. Se il 2015 è stato l'anno delle riforme, il 2016 sarà l'anno dei valori. Questa legge di stabilità, che è stata considerata una legge piena di mance e mancette, è una legge che mette denaro sulla scuola, sull'università, sulla ricerca, sulla cultura, sugli ideali, sul terzo settore, sul servizio civile. Dicono che in questo momento non solo a Nord sono gli italiani che chiedono alla Lega di essere forza trainante del centrodestra, e quindi è chiaro che le battaglie e le proposte sono quelle soprattutto della Lega. Ma quando smonta 100 pecore lui contava dormirci, prova il barò, tutti fanno un gran caro. Il Partito Democratico, che è il partito che io rappresento, ha preso 11 milioni e 200 mila voti alle ultime elezioni. Il leader più votato in Europa è il capo del Partito Democratico. Il secondo posto, con 10 milioni e 600 mila voti, è la capo della CDU in Germania, Angela Merkel. Se con la cancelliera Merkel discutiamo di qual è la linea di politica economica in Europa, non stiamo attaccando l'Europa. In casa Movimento 5 Stelle invece si non so dire, non si può dire si celebra o si festeggia o si si vive la espulsione numero 37, credo. Lei è Serenella Fucsia. Io non ho finito la rendicontazione, alcune persone l'hanno finita questi giorni, sono persone che l'hanno finita adesso a Natale, insomma, giorno più, giorno meno. Ho spiegato per filo e per segno i motivi del mio ritardo, che sono noti a tutti. Tutti sapevano che avrei finito oggi, massimo domani, e non sono una persona ipocrita, perché sono una persona libera, ok? E quindi la libertà, le persone libere, indipendenti, sono scomode. Però io ci tengo a precisare che io con Grillo e Casaleggio ho avuto sempre ottimi rapporti e rinnovo la stima. Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera Alessio, buonasera Claudia e anche tutti i radioascoltatori. Claudia non sono io. Claudio. Carlo. No, Carlo, ma non importa. Carlo. Tanti auguri, Toninelli. Possiamo cominciare adesso con tutti gli ospiti a farci gli auguri, perché siamo in clima certo. Assolutamente da. Anche se gli auguri di buon anno è meglio farli dopo. Direi. Vabbè, ma auguri secondo così, me sì. In generale. Non vorrei tornare sui gufi, però insomma. Speriamo sia l'ultimo anno con Renzi capo del governo, ecco. Diamoci questo come auspicio per il prossimo anno. Lo so che voi. Ma senta, l'ha seguita la conferenza stampa di Renzi? Guardi, oggi ero con i miei bambini, ho guardato le agenzie, mi sono guardato un po' i siti, ma guardi, oramai dopo 2 anni e mezzo di Parlamento e praticamente 2 anni di Renzi, la sua narrativa è sempre la stessa, è la stessa in Parlamento, la stessa in TV, è la stessa nella conferenza stampa, quindi non era così necessario. Se quei signori lì piacciono e si esalta con il 0,% dicendo che la vita migliorerà e tutti saremo più felici, io gli dico, gli rispondiamo che vive in un mondo parallelo, noi viviamo con i piedi per terra, siamo in mezzo alla gente, agli imprenditori, non ci sembra che quei numeri abbiano migliorato la vita, anzi la vita corrente è molto peggiorata per gli imprenditori e i cittadini. Comunque più che la narrativa parlerei dei contenuti, perché la narrativa ognuno c'ha la sua, insomma anche la vostra, sì, non è che cambi particolarmente la narrativa. Coincide, purtroppo. No, se coincidesse la sua narrativa sembra straordinaria dalla sua narrativa. Devo dire però che anche questa volta sui social, questa volta in particolare c'è stata un po' una, normalmente Renzi sui social è molto forte, però un'ondata di commenti un po' stufi con questa cosa dei gufi, che palle con sti gufi, cambiate musica, siamo alle comiche, vabbè, questo è normale. Ma soprattutto perché basta la questione dei gufi, che è di dire a qualcuno che porta iella, che è uno degli strumenti più terribili che si usano. Un po' sì, un po' sì. Si trasformerà in un gufo se continua ad essere ossessionato dei gufi. Senta Toninelli, però la prima cosa che le voglio chiedere è un po' questa, cioè questa espulsione, che credo sia la numero 37, giusto, nel Movimento 5 Stelle? Sì, probabilmente sì. Però ecco, tu mi dai un grosso aiuto, nel senso che si parla di espulsione, quindi agli occhi della gente sembra chissà che cosa. Noi abbiamo alcune regole fondanti, per noi le regole sono fondamentali. Tra queste c'è il restituire metà dello stipendio. Abbiamo restituito in 2 anni e mezzo 15 milioni di euro, sono state aperte 750 piccole imprese, con i soldi di colleghi consiglieri regionali abbiamo costruito strade come quella che collega Catania con Palermo, nel senso sono fondamentali, sono soldi pubblici. Noi abbiamo fatto un patto con gli elettori, li avremmo destinati in questo momento. Però se il mio commercialista fosse così severo come voi, io sarei un uomo morto. Cioè i rendiconti da aprile a settembre non erano ancora arrivati a dicembre, però, giusto? Io ti dico anche che se tu prendi una multa e violi il codice alla strada, la multa ti arriva a casa e non dici che lo Stato è severo, dici ho sbagliato. Certo, certo. No, dici anche qualcos'altro, dici anche qualche parolaccia che non si può riferire. Però la fucsia, le regole si rispettano. Toninelli, la fucsia dice che lei non è l'unica a non avere rendicontato. Io ho controllato sul vostro sito Ti rendi conto, che si chiama proprio così per il gioco di parole. Lei è ferma a marzo, però non è in effetti l'unica che è ferma, è vero o no? Guardi, guardi, noi ci diamo degli step intermedi con delle rendicontazioni solitamente trimestrali. Lei è ferma praticamente tre rendicontazioni fa. Sono state mandate le mail di sollecito. No, no, ma è, tanto è che ci sono altre persone che sono nelle stesse condizioni. Allora ci chiedevamo se... Le stesse condizioni non direi proprio. Sul sito di rendiconto non ce ne sono altre? Non c'è nessuno nelle sue condizioni. Però la questione non è tanto il caso specifico. La questione è una questione di regole. Lei si rende conto che all'interno dei partiti, i partiti sono una deroga vivente dalle regole. I partiti aggirano le leggi per ottenere finanziamenti pubblici illegittimi. Ma infatti questa ha ragione. Condannati e indagati. Cioè, è la cosa che vi fa più onore. Se posso dire, è la cosa che vi fa più onore. Perché voi dite questa è una regola, quindi non è che siccome noi siamo politici e allora non vale. E anzi, è quasi un unicum e siamo tutti molto stupiti. La questione è che la fucsia, poi non lo so, glielo stavo chiedendo a lei perché ne sa di più lei. È che la senatrice Fucsia dice che di solito c'è prima una riunione del direttivo e poi la domanda viene fatta alla rete, giusto? E invece questa volta non è stata fatta. Magari ho sbagliato parola, le chiedo scusa se non lei, è direttivo. Figurati, ma no, allora, i colleghi senatori della Fucsia hanno chiesto a norma di statuto la consultazione online. Punto. È stato rispettato il regolamento, mi sembra che il 93% sia una maggioranza abbastanza alta, ha detto che significa che il Movimento 5 Stelle ha le regole nel DNA. Ma io mi permetto di dire a chi c'è. No, però non è stata fatta questa riunione. Quello che dice la Fucsia. Io il codice di comportamento non è necessario. Ah, dal vostro statuto pare che sia necessario, poi io non lo so, dal vostro regolamento. Senta, ma statuto, può aver pesato. Il codice di comportamento sono la stessa cosa, però mi viene da dire. Lei prova a paragonare chi rispetta le regole, cioè noi dice tu non le rispetti, ti metti fuori da solo, e chi invece le regole le viola, ad esempio il caso di De Luca in campagna, dove un condannato, nonostante la legge Severino l'avrebbe poi sospeso, viene. Ma su questo non discutiamo. Siamo a livelli di parossismo. Ma può avere pesato, parte, Toninelli, anche l'apprezzamento della Fucsia, che era andato su tutti i giornali, al discorso di Maria Elena Boschi quando si è difesa sulla mozione di sfiducia? Disse un bel discorso. Discorso assolutamente pietoso, e il commento della collega che tra l'altro è un'amica, la Fucsia, che assolutamente rispetto, è un commento totalmente fuori luogo. Ma mi permetto anche di dire che la Fucsia dissente dai principi fondanti del Movimento 5 Stelle da quando è dentro e fra l'altro, Parlamento, e nonostante ciò è rimasta sempre lì. Ha votato, io vedo oggi un articolo di Francesco Maesano sulla Stampa che dice ha votato 253 volte in dissenso dal gruppo. Quindi, ma insomma, quello forse... ci sta, ma avrebbe votato anche a favore del Jobs Act, che è una norma incostituzionale che precarizza il lavoro, che ha abolito l'articolo 18 e che fa sì che i giovani laureati oggi, che magari vogliono sposarsi, che si affacciano alle porte di una banca, non ottengono il mutuo perché non è un contratto con delle tutele che gli permette appunto di costruirsi una vita, magari comprandosi una casa grazie ad un mutuo. Cioè, quando Renzi elogia il Jobs Act, io veramente mi sento ribollire, perché significa veramente, io ho amici che non riescono, sono stati assunti grazie al col contratto a fregature crescenti del Jobs Act, e quando sono andati a chiedere un mutuo non gliel'hanno dato perché non è un contratto con le tutele che aveva. Quindi lei ha già verificato questo, perché questa è una domanda che si sono fatti tutti, no? Il contratto a tempo indeterminato è capitato anche qua, Radio 24. No, esiste il contratto a tempo indeterminato, però ha una, diciamo, una forma diversa rispetto a quella di prima, c'è la licenziabilità con l'indennizzo. Lei ha già verificato che non danno il mutuo? È capitata dei suoi amici? Beh, allora, il mutuo innanzitutto le danno, lo decide le banche, non lo decide lo Stato. Sì. Ma io ho conoscenti che oggi non riescono ad averlo. Il contratto con derivato dal Jobs Act. È normale, con la decontribuzione delle tasse che ha l'azienda, che ha avuto l'azienda, che ha assunto quest'anno nei prossimi tre anni. L'azienda guadagna, ma giustamente riesce a decontribuire per 24.000 euro con le nuove assunzioni. Il datore, le banche sanno perfettamente che al quarto anno il datore di lavoro verranno licenziati, secondo lei. Questo non lo sappiamo, non possiamo sapere. Però senta, restando un attimo sul tema delle espulsioni, cioè ti viene da fare un'autocritica da parte vostra su come per esempio avete selezionato i parlamentari, perché ad oggi 37 espulsi, sono 20 senatori, 17 deputati. Per esempio sui senatori 20 su 54, siete quasi alla metà, cioè li avete fatti fuori quasi tutti. Beh, guardi, quando siamo nati, il movimento nasce nel 2009, elezioni successive ovviamente purtroppo in alcuni territori non avevano un radicamento del movimento così forte, ed è vero, dobbiamo ammetterlo, sono entrate persone che con i principi della fatica, dell'asservimento, dell'aiuto agli altri, del non dare importanza al denaro, perché fondamentalmente chi è uscito dal movimento, chi spontaneamente e chi tramite consultazione online, quasi sempre al centro ci sta lo stipendio del parlamentare che si volevano tenere in tasca. Indica che non è nulla del Movimento 5 Stelle, ma mi permetto anche di dire un'altra cosa. Se lei guarda le migrazioni parlamentari che ci sono state, non hanno precedenti. Beh sì, ci sono anche altri partiti. Il gruppo misto che sta diventando il più grosso. È diventato il terzo gruppo parlamentare tra Camera e Senato. Il gruppo misto attualmente è il terzo. È terzo, sì, subito dopo di noi. Capisci che lì è tutta gente che se n'è andata dal partito che l'aveva fatto entrare in Parlamento per convenienza personale. Toninelli, resti in linea con noi un attimo che dobbiamo dare le informazioni sul traffico. Torniamo tra un istante. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Così eccoci qua, allora 800 24 00 24, cari ascoltatori, tra poco sentiremo anche i vostri interventi. Adesso siamo in compagnia di Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle. Le volevo chiedere una cosa, perché giustamente lei Toninelli ci stava spiegando che essendo il Movimento 5 Stelle è nato nel 2009, è ovvio che alle politiche sono state anche imbarcate alcune persone che erano meno radicate con il movimento. Questo è esattamente praticamente le stesse cose che ha detto la senatrice Fucsia oggi dopo le espulsioni, dicendo, però parlando di quelli che sono ancora dentro, non di quelli che sono espulsi, ci sono molti incapaci attaccati a questa cosa che a tutti e noi è arrivata senza merito. Non capiscono che è assurdo che una commessa si metta a discettare di tematiche ambientali o che un giardiniere si occupi di sanità. Ah, bella accusa. Ma ripeto, Serenella è una bravissima ragazza, sicuramente sarà molto meglio di fuori dal movimento con i suoi 10-12 mila euro netti al mese e potrà votare il Jobs Act e tutte le leggi che precarizzeranno il lavoro. No, ma parte la polemica perché mi interessava veramente, io non la facevo per polemica la domanda, cioè mi chiedevo questa questione, se il movimento si sta spaccando anche sulla questione che ci sono alcune persone che pensano di essere più preparate o che bisogna essere più preparati su certi temi, altri invece che dicono decide la base, decidiamo tutti insieme, non importa che io non abbia studiato perché io so decidere bene per il paese, cioè mi sembra una questione in realtà concreta. Sì, è una questione concreta, ma come sapete noi sulle questioni importanti che non sono inserite nel programma elettorale già scritto quasi sempre consultiamo la rete. Per il resto io penso che sia un dato oggettivo che i portavoce del Movimento 5 Stelle in Parlamento siano in questi 2 anni e mezzo molto cresciuti, chi più chi meno, è normale, fa parte della vita. Sì, c'è stato il direttorio, però nei poi, propri certo. ambiti siamo molto cresciuti e penso che si veda anche chi di noi. Cioè lei dice eravate impreparati ma adesso lo siete meno. Allora, siamo okay. Una forza politica con la percentuale di laureati più alta tra tutte le forze politiche. No, ma non penso che sia un dato. No, non è assolutamente una difesa. Ma io non trovo che ci sia dalle altre parti politiche una grossissima preparazione. Il parlamentare medio del PD pigia il pulsante, non studia i provvedimenti che tanto arrivano al di fuori del Parlamento, vengono fatti a Palazzo Chigi, gli dicono semplicemente vota così o vota in un'altra maniera. Senta, avete votato insieme i giudici della Corte Costituzionale, sì. Voterete il testo Cirinnà? Voteremo il testo Cirinnà, assolutamente sì. Il problema è che il Partito Democratico ha paura a votarlo insieme a noi. Cirinnà l'abbiamo votato in commissione. Cioè dici che saranno loro a tirarsi indietro? Fino adesso assolutamente sì. E noi come mai? Però oggi Renzi ha detto che è una priorità del 2016 la legge sulle unioni civili. Renzi disse per la terza volta che entro l'anno, che oramai è scaduto, sarebbe stato approvato in doppia lettura, quindi l'ennesima è promessa fallita. Comunque sia, noi siamo pazienti, il provvedimento l'abbiamo già votato. Cioè quando arriverà in aula voi comunque lo voterete, punto. Noi comunque lo voteremo. Io quello che mi permetto di dire è che Renzi non l'ha ancora portato in aula, evidentemente perché essendo uomo da sondaggi, essendo uomo che si sposta sulla base dei sondaggi, siccome la politica non ha mai fatto cultura e informazione in questi decenni, gli italiani lo vedono come un problema che non è un problema, perché quel testo non ruba soldi a nessuno ma dà più diritti per tutti. Certo. E non permette le adozioni in maniera spregiudicata, ma quindi, è una palla colossale. Esatto, e voi votereste anche la stepchild adoption? È l'adozione del figliastro. Tra l'altro, non è che lo diciamo noi, diciamo che quel testo se lo impone la Corte Europea dei diritti umani perché ci sta contravvenzionando, dicendo non essendoci una legge che li tutela, significa che siete in contravvenzione. Mi sembra che già parecchie coppie abbiano fatto ricorso e stiamo ottenendo parecchie migliaia di euro di risarcimento. se non viene fatta la legge si costa anche parecchi così. Verissimo. Senta, ma invece su un altro tema, quello dello smog, sì, voi l'avreste, sì, fatto nelle città dove avete amministrato, per esempio Parma, il blocco del traffico? Ma il blocco del traffico è una misura molto secondaria. Qua c'è un Renzi che dice il problema smog è che noi lo stiamo strumentalizzando. Ma se si dice che rispetto all'anno precedente ci sono più 68.000 morti in Italia, non si sta strumentalizzando niente. Però non, non c'è scritto che quei morti sono, diciamo, legati necessariamente a questioni ambientali. Presumibilmente, beh, si può dedurre, sì, anche però, che... Però capisci, ora, che se tu si fonda, sì, la politica energetica sul carbone, sul petrolio, lì si ha la certezza che si va ad inquinare. Forse il Movimento 5 Stelle argomenta la politica energetica è fondata sulle rinnovabili, sulla riqualificazione energetica delle abitazioni. Significa non solo che si inquina di meno, ma che le famiglie italiane spendono molto soldi perché la casa passiva non costa nulla. Invece un cittadino normale oggi paga centinaia e centinaia di euro tutti i mesi per elettricità, per scaldare l'acqua, per scaldare l'ambiente, eccetera, eccetera, perché le case non hanno una vera e propria efficienza energetica. Noi questo faremmo, e daremmo lavoro a decine di migliaia di persone in Italia. Mm. Ma per esempio Parma ha avuto gli sforamenti, no, della concentrazione di polveri sottili amministrata da voi. Che tipo di rimedi ha messo in campo la città di Parma? Ma penso che abbia messo in piedi rimedi ordinari che mettono in piedi vari sindaci. Ripeto, è un problema centrale, non locale. Devi cambiare la politica energetica. Renzi con lo sblocca Italia, e cos'è che fa? Ci sono in questi giorni i decreti attuativi, ci sono 9 inceneritori in più. E sai che cosa accade? Io arrivo dalla provincia di Cremona e si progetta per il 2024 un mega inceneritore che va ad incenerire non solo i rifiuti del territorio, ma quelli di altre regioni italiane e addirittura che provengono dall'estero. Questa è proprio una follia, ma perché? Perché dietro gli inceneritori ci sono le società partecipate. Nelle società partecipate, ci sono circa 10.000 in Italia, ci sono... Con noi quelli sugli inceneritori sfondano la porta aperta, perché noi tutte le volte, ecco, che ne parliamo diamo voce a zero rifiuti. Senta, una cosa invece però, sull'Italicum, che oggi, sì, Renzi ha detto, ha messo tra i capolavori addirittura parlamentari, però questo è un sistema che a voi vi conviene? Visto i sondaggi, vincereste addirittura le elezioni. Ma guardi, su una cosa, in questo della conferenza di Renzi condivido che i sondaggi non vanno guardati, noi non li guardiamo, ci rendiamo conto di essere comunque una forza in crescita. L'Italicum è stato scritto contro il Movimento 5 Stelle per eliminarci, renderci terzi e non portarci al ballottaggio. Peccato che hanno fatto dei piccoli errori di calcolo e oggi si potrebbe avvantaggiare. Ciò non significa che ci piaccia. Noi abbiamo firmato tutti i ricorsi in Italia per far dichiarare, diciamo, decaduto l'Italicum, come è accaduto per il Porcellum, e sosterremo il referendum abrogativo contro l'Italicum. Non si può dire che una legge è bella perché ci conviene, perché altrimenti diventiamo come gli altri. Va bene, grazie, buona serata e auguri. Grazie, caro, grazie. Non sbaglierò più il suo nome. Ma ci mancherebbe altro, nessun problema. Ecco, ciao, arrivederci, buona serata. Incidente diplomatico a Radio 24. Alessandro da Ferrara, buonasera. Sì, buonasera a voi. Niente, se possibile do la testimonianza di cittadino ferrarese, una madre pensionata ultra ottantenne, poco prima dell'uscita del decreto salvabanche si è infortunata e ora è in ospedale e non sa ancora che ha perso una bella fetta di risparmi che aveva affidato con fiducia alla banca della sua città. Speriamo che non ascolti Radio 24. Non credo, poverina. Ah. No. Va bene. E quindi lei li aveva affidati alla banca della sua città, la banca sulla quale aveva la massima fiducia. Fra l'altro veniva chiamata costantemente per essere stimolata, insomma, a investire. Ma che profilo di rischio aveva sua madre? Lei lo sa? Bassissimo. Le avevamo consigliato di mettere un profilo bassissimo. Quindi e si è messo il profilo basso? Dieci anni fa è stata l'hanno convinta a firmare le famose obbligazioni subordinate, di cui lei ovviamente mi sconosce ancora il significato, ma si fidava delle persone che la chiamavano, delle persone che la contattavano. Certo. E insomma, lei adesso non sa che ha perso questi soldi che lei non voleva, sui quali non voleva speculare. Ho sentito anche ieri, scusate, delle persone che sono intervenute nella vostra trasmissione che dicevano che queste persone, alcune di loro volevano speculare. Forse le faccio sentire Renzi che dice che rimborseranno i truffati. Sentiamo. Chi ha subito dei danni, chi è stato truffato, deve sapere che lo Stato è dalla sua parte. Chi ha subito un danno perché è stato truffato deve sapere che noi faremo di tutto perché possa riavere indietro i suoi soldi. Va bene, eccoci qua, ci fermiamo, c'è il giornale radio, torniamo subito dopo 800 24 00 24. A dopo. per chi ama le tradizioni e per chi preferisce il cambiamento, per chi vuole tenere la mente sempre sveglia e per chi non rinuncia alle sue passioni, per chi vuole restare sempre aggiornato anche sotto le feste. Le nostre voci, le notizie, gli approfondimenti e le grandi storie sono con te anche in vacanza. Tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri. Da Radio 24. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta Audiogrammi speciale Natale. Sei Alex Larson? Dipende da chi me lo chiede. T'ho mandato una lettera. Chi mi conosce non mi scrive, perché non so leggere. Per cui non posso conoscere uno che lo fa. I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio. Il signor Davis ha detto che dare un'istruzione a una donna è utile quanto dare un'istruzione a una gatta. Giovedì 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete l'emozione di una grande storia, come mai l'avete ascoltata. Deve tornare libero, è la sua magia. Vi aspettiamo giovedì 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi, in radio come al cinema. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Paese tra i paesi europei che ha prodotto una tra le migliori curve di riduzione delle emissioni. Non basta, no, ma da qui a sostenere che vi sia una correlazione e che ci sia un governo che passeggia, se ho capito bene, questo deve essere stato il verbo, su 68.000 morti, beh, io credo che ci sia un limite di decenza rispetto al quale converrebbe non andare mai oltre. Siamo passati dal piove governo ladro al non piove governo killer. Questo è il passaggio culturale che vede alcuni autorevoli scienziati dell'opposizione essere molto ostili alle posizioni del governo. Mi sembra demenziale lasciare a piedi le persone che vorrebbero lavorare anche fra Natale e Capodanno, soprattutto lasciare a piedi moto, motorini, GPL, metano, quindi non è contro l'inquinamento, è per rompere le scatole alla gente, anche perché l'inquinamento delle auto è meno del 20% di inquinamento totale. Poi se un sindaco avesse veramente a cuore la salute dei nostri figli, controllerebbe ad esempio su Milano le 3.000 caldaie che vanno ancora a gasolio, più che lasciare a piedi chi cerca di lavorare anche oggi, quindi secondo me è un'idea demenziale. Noi ribadiamo, chiediamo un piano strutturale, più trasporto pubblico, più efficienza energetica, più auto elettriche, una politica energetica nuova basata sulle rinnovabili. E questi erano nell'ordine Renzi, Salvini e Angelo Bonelli dei Verdi. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, buonasera a tutti. Quindi con Si può fare insieme fino alle 21, allora normalmente della Zanzara, vi teniamo compagnia fino al 31 dicembre, 800 24 00 24, vi aspettiamo anche con la vostra più bella notizia di questo 2015. Questo 2015, cioè, la classica bella notizia vostra personale, per esempio, no? All'SMS c'è chi ci scrive: abbiamo finito di pagare il mutuo il 1 dicembre, Elena e Paolo da Varese. Cavolo, molto, a proposito di mutuo, ti leggo un altro messaggino perché è giusto. Prima abbiamo sentito, sì, Toninelli del Movimento 5 Stelle che diceva che un amico di un amico non poteva avere il mutuo perché aveva un contratto del Jobs Act, e qui abbiamo invece uno che scrive: a 43 anni ne ho assunto con Jobs Act, ho tranquillamente un mutuo appena ricevuto da 300.000 euro. E anche stasera alla risposta alla bella notizia più che ci piacerà di più, che ci convincerà di più, a insindacabile giudizio nostro, in premio due biglietti il catalogo della mostra Tamara dell'Impiccica a Verona o Gauguin a Milano, sempre organizzata dal gruppo 24 ore. Vediamo, dobbiamo estrarre dallo scatolone delle mostre del Sole 24 ore. Intanto è con noi l'assessore all'ambiente del Comune di Milano. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Pier Francesco Maran. Maran, un momento non brillantissimo per un assessore all'ambiente, non vorrei essere nei suoi panni perché c'è un po' il tiro incrociato. Che deve fare, insomma, è così, però va anche detto che stiamo vivendo un'emergenza particolare, sì. Insomma, perché sono due mesi che non piove e perché la pianura padana è strutturalmente da decenni fuori norma sui parametri ambientali, però va anche detto che respiriamo un'aria migliore rispetto a quella di 10 anni fa, che significa che qualcosa è stato fatto. Senta, però questo però guardando ai risultati di oggi, lo sappiamo, è stato detto, le polveri sottili non si sono abbassate nonostante il blocco del traffico. Alla luce di questi dati andrete avanti? Beh, intanto abbiamo previsto un blocco di 3 giorni, oggi è stato il secondo giorno, quindi intanto aspetterei di vedere cosa accade alla fine dei 3 giorni. Poi è evidente che un blocco su un territorio più vasto sarebbe stato indubbiamente più efficiente e più efficace. Quindi gli altri comuni... La prima richiesta che abbiamo fatto alla, sì, Regione Lombardia, prima di fare il blocco a Milano, è: prendiamo un provvedimento su aria vasta. Il risultato è stato una dichiarazione virgolettata: il Comune di Milano si occupi del territorio del Comune di Milano. Allora, che quando si parla di ambiente è sempre molto difficile, perché i confini, sì, sono le molto labili. Vagano. Sì. Allora, io per primo penso, sì, che un provvedimento su un territorio più ampio sia molto più efficace, però non può essere un alibi per non fare niente. Bravo, anche perché, scusi assessore, mi faccia dire una cosa, perché, sì, noi sappiamo, abbiamo detto ieri sera parlando anche col presidente dell'ARPA Lombardia, che in città, a Milano, il traffico ha un'incidenza sulle polveri molto più alta che non nelle altre città, dove incidono di più probabilmente le caldaie di riscaldamento. Quindi questo può essere un motivo per cui le altre città non vogliono fare il blocco, potrebbe essere una spiegazione. Allora, di sicuro a Milano c'è una sensibilità anche dei nostri concittadini più forte, c'è un uso del trasporto pubblico più rilevante, anche perché abbiamo più servizi, insomma. Però anche la difficoltà, solo nella provincia di Milano ci sono più di 130 comuni. Si immagini se per riuscire a fare un provvedimento bisogna andare a prendere i comuni uno a uno, no? È anche il motivo per cui nella storia sono stati inventati le province, le regioni e le cose. Perché, sì, però questa è una vecchia questione, nel senso che va capito, nel senso che purtroppo le decisioni è così, se sono 130 i comuni sono 130, oppure si fa la questione dell'area metropolitana dove Milano decide, giusto? Oppure, visto che la città metropolitana esiste ma non può decidere per i 130 comuni, però la regione sì, quindi... Certo, giusto. Però lei dice ci vorrebbe un blocco esteso anche alle altre città. Però ieri il presidente dell'ARPA Lombardia ha detto che già si sapeva che poteva andare a finire così, perché già in passato questi blocchi non sono serviti a migliorare l'aria. Io le chiedo, è vero? Perché sennò cosa li facciamo a fare questi blocchi se già sappiamo che non servono? Allora, sui dati delle colonnine, indubbiamente l'esito è il quanto emettiamo è uno degli elementi, ma l'altro tema, per esempio ieri proprio l'ARPA Lombardia individuava lunedì come una giornata a forte capacità di accumulo di inquinanti, 2+, che è il massimo dell'accumulo inquinanti. Perché ad esempio è vero che a Milano le colonnine danno lo stesso dato del giorno prima, però è anche vero che c'è stato un aumento del 6%, no, del vero a Milano, però è anche vero che in larga parte della Lombardia i dati sono aumentati tra il 30 e il 50%. Allora, se dice rispetto al giorno prima è diminuito, no. C'è anche da dire che non è aumentato, mentre nel resto della Lombardia è aumentato. Ma non c'è anche un valore simbolico in questa operazione? Perché io non mi attaccherei tanto al fatto di dire i dati sono saliti, sono scesi. Io penso che ci sia un valore simbolico nell'operazione, perché è solamente nel momento che fermi le macchine che tutti, intanto i giornali, ma anche proprio le persone al bar, iniziano a dirsi: ma allora è proprio irrespirabile quest'aria. Sbaglio? Credo anch'io che questo sia un dato importante, tanto perché sui giornali non c'era fino a questo momento, ma anche perché adesso ieri c'è stato questo vertice in Regione Lombardia, dove tra l'altro poi facevate sentire le dichiarazioni Salvini prima, sì. Dopodiché Maroni ha sostanzialmente acquisito il documento di proposte strutturali che ha fatto l'ANCI e che, diciamo, di cui Milano è stata protagonista. Ha anche condiviso la necessità di prevedere un protocollo di interventi emergenziali quando ci si trova in queste condizioni. Magari non sarà il blocco, sarà un'altra misura, però è l'accettazione del principio per cui a fronte fronte di X giorni di scolamento si fa qualcosa tutti quanti insieme. Ecco, questa ritrovata unità a quale misure punta? Ce lo può dire, visto che l'incontro è stato ieri? E domani andremo anche al Ministero dell'Ambiente a questo incontro, dove noi come ANCI in maniera molto serena vogliamo provare a spuntare alcune certezze sui nostri problemi. Però senza fare appunto l'elenco delle buone intenzioni, quali sono le misure? Noi abbiamo un problema che tutti ci diciamo che il trasporto pubblico è decisivo per il futuro dell'ambiente, dopodiché sono 10 anni che si tagliano le risorse al trasporto pubblico. Vogliamo avere delle certezze nei prossimi 5 anni. Tutti si lamentano che i bus sono vecchi, i bus delle società pubbliche. Guardi che non è un caso, perché l'Italia da 4 anni a questa parte non ha più finanziato a livello statale l'acquisto di nuovi bus, mentre Germania e Francia hanno un fondo di circa 500 milioni l'anno. Sì, tra l'altro l'unica industria italiana che avevamo stava per chiudere, non so se è chiusa. E noi abbiamo un'eccellenza di storia nella produzione di bus, di tram, noi a Milano ci siamo comprati... Adesso per fortuna il governo ci ha dato un contributo per i nuovi, ma ci siamo comprati 30 nuovi treni della metropolitana, è stata la prima volta che avviene senza contributi statali, e sono dei bellissimi treni prodotti in Calabria. Quindi, però parliamo anche delle caldaie a questo punto, perché è doveroso, no? Cioè, quanti sono i gradi di temperatura che dovrebbero essere rispettati in base alle ordinanze, proprio per diminuire le emissioni delle polveri? A seconda bisogna stare tra i 20 e i 19 gradi con una tolleranza di 2 gradi. Ecco, come sappiamo non avviene quasi da nessuna parte. Un po' per volontà, perché ci piace stare al caldo come nazione, ma un altro po' perché abbiamo anche degli impianti abbastanza vecchiotti dove riuscire a regolare il fatto che la temperatura al primo piano e al quinto piano sia accettabile per tutti non è facile. Su questo però non è che non ci sono i fondi, perché pensiamo al fatto che il governo contribuisce, lo Stato contribuisce fino al 65% nel cambio delle caldaie. Sì. Il problema, oggi c'era una bella intervista sul Corriere della Sera di Del Rio, perché sta modificando la norma in una maniera che io credo sia per una volta molto attenta a quello che accade nella vita reale. No? Per esempio le caldaie a gasolio che inquinano tantissimo. Sì, però tutti quanti noi penso siamo stati in un'assemblea di condominio e sappiamo che far approvare il cambio della caldaia è una di quelle esperienze che nella vita sono non le raccomando, complicate fino a che non si rompe. E è vero che c'è il rimborso del 65%, però chiunque di noi dice: tu intanto mi chiedi di pagare il costo della caldaia, che possono essere anche più di 10.000 euro domani. Poi nel corso delle dichiarazioni dei redditi dei prossimi anni mi rimborsi il 65%. Non è molto. Allora il governo ha fatto questa modifica che io reputo molto intelligente, per cui anziché fare questo circuito lungo, il contributo viene dato inizialmente a queste società che si chiamano ESCO, Energy Service Company, che finanzia l'operazione andando a tagliare subito il costo dell'intervento e finanziando anche in parte l'iniziativa con il fatto che la caldaia a gasolio, oltre ad inquinare molto, costa anche di molto di più della caldaia nuova. Quindi in quell'altro modo si dovrebbe anche risparmiare. E quindi un po' si finanzia con l'intervento del governo, un po' si finanzia con il fatto che le bollette negli anni successivi saranno meno care, sì. E quindi parte del risparmio va direttamente all'ESCO. Il risultato speriamo che va bene, potrei o non pagare o pagare una cifra. Speriamo che tutto ciò si realizzi, perché questa storia, per esempio, delle caldaie a gasolio è incredibile. Senta, sul car sharing c'è stata una piccola polemica a Milano, perché avendole equiparate al servizio pubblico possono circolare mentre le auto private stanno ferme, ma se il punto è diminuire le emissioni, non inquinano anche quelle auto lì del car sharing? Il punto è cambiare la mobilità delle città. Allora, il trasporto pubblico, il taxi e il car sharing sono degli strumenti alternativi all'auto privata. A Milano abbiamo 2.000 auto del car sharing da 2 anni a questa parte, e nel mentre si sono ridotte di circa 20.000 le auto private. Tra l'altro è l'unica o quasi l'unica città italiana dove le auto private diminuiscono invece che salire. Uno dei motivi è il fatto anche che rispetto ad avere la seconda o la terza macchina, o per chi si trasferisce a vivere a Milano portarsela qui, il fatto di avere una terza macchina, però nel momento dell'emergenza, se si devono tirare i remi in barca, bisognerebbe fermarle tutte le macchine, io credo. Con questo principio dovremmo bloccare anche i taxi, però su questo noi riteniamo che i servizi pubblici debbano funzionare sempre, insomma, siccome abbiamo individuato il car sharing come un servizio pubblico o perlomeno alternativo, giustamente alla pari del taxi, del noleggio con conducente, ci sembrava giusto mantenerlo anche in questi giorni. Senta, il 15% della flotta, sì, del car sharing è anche a trazione elettrica. Senta, lei ha detto, fra poco Milano va a elezioni, lei è uno di quegli assessori che sosterrà Beppe Sala, candidato, e non Francesca Balzani, che è l'altra candidata, che è la candidata sostenuta tra l'altro da Pisapia. È l'attuale vice sindaco di Milano. Lei è nato con Pisapia, cos'è, una rivolta in famiglia? No, a parte il fatto che c'è anche un altro candidato in giunta con noi che si chiama Pier Francesco Maiorino, ci sono almeno tre e forse anche Roberto Caputo, che se non lo si cita si arrabbia molto. Quindi insomma abbiamo già due colleghi candidati in giunta. Poi Pisapia non si è espresso a favore di nessun candidato. Devo dire che insieme assessori abbiamo visto in Beppe Sala un'ipotesi importante per lo sviluppo della città. Noi crediamo di aver fatto un bel lavoro in questi 5 anni, di aver amministrato bene Milano, averla portata anche con Expo, ma anche con quello che è stato fatto in città, ad essere in questo momento una delle città più interessanti a livello europeo. Però Pisapia e Sala sono molto diversi. Sono molto diversi, ma guardi, conoscendoli c'hanno anche dei tratti simili che non ci si aspetta, a dire il vero. Per comunque esempio? Oggi che siamo. Per esempio? Beh, intanto c'è una sono due sgobboni incredibili. Tutti dicono sempre i politici dove sono, certo, oggi abbiamo fatto 4 ore di giunta con Giuliano. Sono due lavoratori. Però come posizione politica, l'essere sgobboni come posizione politica. Pisapia è di Sel, falce e martello, invece Sala è un manager ultramilionario. Intanto sono due professionisti che si sono fatti da soli negli anni, Giuliano essendo un avvocato importante e Sala facendo il manager nel privato e poi nel pubblico, insomma, quindi... No, ma infatti soldi a parte, sì. Soldi era più capire la questione quanto sei di sinistra. Questo però quello è uno di quei test che si fanno su Facebook. Io credo che in quanto sei di sinistra su Facebook e a Radio 24 si fanno anche lì, sì. In quanto sei di sinistra però si vede e si dovrà vedere nelle azioni concrete, insomma. Io tra l'altro in questi anni ne ho visti un sacco che sul quanto sei di sinistra vanno fortissimo, ma poi nelle azioni no questo è vero. Però ci chiedevamo perché in qualche modo la Balzani ci sembrava più vicina a Pisapia che non Sala, e quindi ci chiedevamo come mai invece avesse scelto di appoggiare Sala. Perché insomma, secondo lei sono equidistanti Balzani e Sala da Pisapia? Secondo me sono, io credo che come Pisapia c'è solo Pisapia, sono tutti dei progetti diversi ma che si devono portare delle cose positive in questi anni, un profilo onesto e trasparente di governo, anche una capacità di saper innovare su alcuni temi. Prendiamo, ne abbiamo parlato prima, anche questa cosa dello sharing, comunque vada, fino a alcuni anni fa non c'era, adesso Milano è considerata una delle città più interessanti a livello europeo, insomma. Grazie, buona serata, dobbiamo chiudere, abbiamo la borsa, voi. Grazie Maran. Grazie assessore. A presto, borsa. Secondo me, essere buoni significa non arrabbiarsi con nessuno e picchiare nessuno. Come sarà il 2016? Come si immaginano i bambini la vita nel futuro? Perché si dice buon anno? Lo scopriremo a terra in vista il 2016 spiegato a mio figlio. Sono Federico Taddia e vi aspetto insieme al filosofo Telmo Pievani giovedì 31 dicembre alle 21 e venerdì 1 gennaio alle 9 con racconti, favole, ospiti e tante curiosità per grandi e piccini. Radio 24, feste in vista. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funky up. Uptown funky up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo buonasera a tutti da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buonasera. Vi aspettiamo su tutti i nostri canali. Per esempio, la bella notizia è che ho lasciato un lavoro dove non mi pagavano per ricominciare il mio vecchio lavoro, scrive un ascoltatore all'SMS. Ma chiamaci, vorrei dire, sì. Chiamaci perché vogliamo sapere qual era il vecchio lavoro. Come mai l'hai cambiato, nel senso che se ti pagavano come mai, era più interessante il momento in cui da un lavoro che dove non ti pagavano hai deciso, anzi dove ti pagavano hai deciso di andare in un posto dove non ti pagavano. Abbiamo Giuseppe da Lucerna, buonasera. La mia buona notizia, sì, del 2015 è che ho ricevuto la residenza permanente svizzera. Perché io ho sentito poco fa i discorsi fantasiosi, sì, le battute di quel signore toscano, però purtroppo la il signore toscano è Renzi, ovviamente, sì. Credo. Purtroppo pensavamo fosse un ascoltatore. Giuseppe, ma... un momento però, residenza in Svizzera dove? A Lucerna. A Lucerna. E prima dove l'avevi? Prima io ho abitato da 10 anni, sono all'estero, abitavo in Germania, poi in Svizzera. Ah, quindi non è un italiano che va in Svizzera. È un cervello in fuga o no? È un cervello che già era in fuga e è rimasto in fuga. Ma io non sono un cervello, sono un modestissimo ingegnere. Quindi. Beh, ingegnere no, è quasi il top dell'università, no, delle cervellanze, però, diciamo così. Il punto è che stride parecchio. Cioè, io ho visto... Ma scusa, che lavoro fai, Giuseppe? Costruisco progetti aeroplani, diciamo. Beh, insomma, stiamo parlando di un... E sei andato in Svizzera, ma per motivi fiscali? Ma no, che motivi fiscali? Che io in Italia morirei di fame, non troverei un altro lavoro. Io ho compagni di università che si sono sentiti offrire 30 o 35 mila euro lordi. Quindi questo signore che dice... Che sarebbero, che sarebbero pochi, naturalmente... No, rido perché c'è gente che 35.000 euro lordi ci farebbe una firma però, gigante. Ma non per un, immagino, non per un ingegnere aerospaziale. La realtà nel resto del mondo, se uno vuole guardare, è no, certo, diversa. Però anche i costi saranno diversi. Quanto costa un affitto in Svizzera a Lucerna? Ma io pago 1.500 franchi, sono 1.300 euro. Meno che a Milano, direi. Quindi, cioè, 1.200 euro di affitto per che tipo di casa a Lucerna? Un bilocale. Beh, insomma, il locale 1.200 non è pochissimo. Beh, Milano non è che siamo lì, sì, assolutamente. Quindi, ma non riusciamo a convincerla a tornare, quindi? No. Ma poi lavora, lavora. Permanente, io tra 5 anni punto alla cittadinanza. Cioè, sì, finché le cose non cambiano veramente in Italia, non si esce da questa vietnamizzazione, come la chiama Seminerio, no? Secondo me. Vabbè. Ma ci lasci con qualcosa di un po' più positivo. Siamo alla fine dell'anno, lei è in Svizzera, piglia evidentemente più di 35.000 euro all'anno. Ci lasci con qualche speranza per noi che invece restiamo qui. Li prende qui al mese, li prende forse. Ma speriamo che nevichi, ecco, l'unica cosa, non c'è la neve. Così può andare a sciare, eh? Non si può andare a sciare vabbè, perché non c'è la neve. Vabbè, non insomma, c'è neve in questo momento, no, neanche in Svizzera. No, neanche. Quindi vedi, il meteo non fa distinzioni. Grazie Giuseppe. Grazie mille. Voi, auguri, solidarietà auguri per chi ha altri problemi, che non possa andare a sciare, giustamente. E per chi non guadagna nemmeno quei 35.000 esatto euro al mese. Molto sconforto, comunque, e mi spiace sentire. Però è una strada anche quella, cioè lavorate in Germania, adesso lavora in Svizzera. Oh, no, ragazzi, ma quello Svizzera ci mancherebbe. Non è che sia in Australia, ma qua dietro l'angolo. Walter da Udine. Walter, buonasera. Buonasera. Mi chiamo Walter Rizzetto, sono un parlamentare attualmente in carica. Ah, come no? Ex, fra l'altro ex Movimento 5 Stelle, uno degli epurati. No, in realtà non è che non sono stato epurato, me ne sono andato di mia spontanea volontà. Adesso io non ricordo perché gennaio di quest'anno. È nell'elenco tra quelli che sono fuoriusciti. L'elenco di oggi. No, io vi ringrazio per la chiamata. Prima stavo ascoltando. È lei che ha chiamato, Lei che ha chiamato. Sì, nel senso che mi avete dato la possibilità di poter replicare, intendo questo. No, prima perché magari poi gli ascoltatori pensano che l'abbiamo chiamato noi. No, assolutamente. Abbiamo richiamato dopo che aveva chiamato. Guardate, semplicemente una velocissima replica rispetto a quanto ho ascoltato prima dal collega deputato Toninelli, ancora in essere del Movimento 5 Stelle. Ancora allora, in essere del Movimento 5 Stelle. Sì. Sì, infatti, perché tra l'altro leggo qualche agenzia, la cosa bella è che leggo qualche agenzia che addirittura il sindaco di Gela del Movimento 5 Stelle si è in odore di espulsione in queste ore perché aveva epurato 3 assessori grillini. Cioè lui che aveva epurato, adesso epurano lui. Ma adesso, Toninelli sul borsino come è dato? È ancora dentro o è già stato espulso durante l'intervista? Assolutamente con percentuali bulgare è dentro. Ah, va bene. Ascoltate, no, una prego cosa, l'unica replica che io vorrei fare, pur rispettando, come ho sempre fatto, voglio dire, il Movimento 5 Stelle, vi posso garantire che le persone che se ne sono andate, perlomeno quelle che conosco io dal Movimento 5 Stelle, stanno continuando a portare avanti i valori del Movimento 5 Stelle e soprattutto il programma del Movimento 5 Stelle. Non lo facciamo. Questa è una notizia. No, questa è una notizia, questa è una verità. Sì, speriamo che le due cose siano congruenti, altrimenti è un problema. Sono assolutamente congruenti e verificabili, assolutamente. Però il problema, secondo me, è che quando le persone ascoltano giustamente anche la radio, ti fanno l'idea rispetto ad un passaggio che è stato evidenziato prima, ovvero che coloro che se ne sono andati dal Movimento 5 Stelle se lo fanno per soldi, nel senso che questo sembra essere l'unico questa punto è la critica che viene fatta rispetto. Da molti bene, di quelli che rimangono nel Movimento 5 Stelle, anche perché è un po' facile, se vogliamo, per infangare le persone dire semplicemente che hanno portato perfetto via dei soldi. Allora, siccome questa è una cosa che non sì corrisponde al vero, io vi dico che l'espulsione della senatrice Serenella Fucsia, e io non devo necessariamente prendere le difese della senatrice, è bravissima. Qual è il motivo vero? Qual ci mancherebbe altro. Sì. Perché era diventata una persona scomoda, con una linea di pensiero del tutto autonoma. Io sono assolutamente certo che, ad esempio, nel caso in cui lei difese un po' o disse... O il Jobs Act? Scrisse no tanto il Jobs Act, ma l'ultimo episodio, quando scrisse su social network, su Facebook, chapeau al discorso della Boschi, io posso anche concordare che in quello specifico caso forse la deputata, la senatrice, aveva un po' esagerato. Però ma soprattutto aveva votato 250 volte contro il movimento, per cui questo, guardi, questo capita in tutti, sì, in tutti i gruppi. E guardi, no, però il Movimento 5 Stelle ha uno statuto, ha delle regole. Nel momento in cui lei non fa le rendicontazioni, chiaramente, essendo già una che è fuori dalla linea, a quel punto si fa 2 più 2, è fuori. E questo è il punto che io vorrei sottolineare, su cui io vorrei sottolineare. Non è vero, nel senso che ci sono ampie dimostrazioni che sino al 4, 5 o 6 di dicembre moltissimi deputati e senatori erano fermi con le rendicontazioni e le restituzioni, qualcuno anche a marzo. Noi questo l'abbiamo chiesto a Toninelli, lui ha detto che non è così, no, lei dice che invece è così, basta andare sul sito e verificare. Io ho verificato e ho visto che quasi tutti si sono messi in regola, da quello che ho capito queste persone si sono messe in regola entro il 23 dicembre, però sono state avvisate dicendo mettetevi in regola perché stiamo per far fuori chi non è in regola. Perfettamente, questo è stato un meccanismo ad imbuto evidentemente, nel senso che sino a metà di dicembre molti deputati, molti senatori non erano in regola con la rendicontazione, probabilmente sono stati avvisati per escludere di fatto Serenella Fucsia. Ma quindi chi ha fatto fuori? Chi ha fatto fuori la Fucsia? Ma questo dovete chiederlo a loro, evidentemente. Basta andare sul sito e verificare. Rizzetto, grazie. Buona serata, perché non vogliamo che questa cosa si amplifichi, che diventi una questione interna al Movimento 5 Stelle, che esonda nella trasmissione. Grazie, auguri anche a lei. Buona serata. Lucio da Roma. Lucio. Buonasera a voi. Buonasera. Io sono anche io un ingegnere, come la precedente telefonata. Volevo dare più che come dire una bella notizia, che relativa al fatto che ad agosto avevo perso il lavoro e a 44 anni potete... E questa non era la buona notizia, ovviamente. Non era la buona notizia. Ho poi ovviamente avuto la possibilità di reinserirmi nuovamente. Adesso il 4 di gennaio inizierò nuovamente. Però in realtà non era questo il messaggio che volevo dare. Vabbè, però intanto con questa sua bella notizia, diciamo, lo iscriviamo, no, al gioco di questa sera. Ha ritrovato lavoro. Addirittura ho trovato due opportunità tra le quali potrò scegliere, anche se in realtà poi ho definito con una delle due aziende. Però posso chiedere se guadagnerà più o meno di 35.000 euro? Non so se ha sentito l'ascoltatore di prima. Il triplo. Il triplo, considerando però che si tratta di una multinazionale che ha sede legale ad Amsterdam, di cui ovviamente non faccio il nome, e che poi, a parte questo, mi darà anche l'auto aziendale. Vabbè, tutti i benefit. Quindi dimostra, se non è una buona notizia questa. Si dimostra che essere ingegneri, diciamo, ha ancora un peso sul mercato del lavoro. Ha ancora un peso oggi. Vabbè. Ma non purtroppo in Italia, nel senso che io su... Però scusi, se lei il lavoro l'ha trovato in Italia, no? Ho capito male. Allora, la sede di lavoro è in Italia, però io sarò itinerante, nel senso che sarò responsabile per la mia attività di Europa, Asia ed America. Quindi diciamo un venditore? Che cos'è un venditore? No. No. Sono ingegnere, un tecnico. Lean expert, quindi ottimizzazione dei processi Va bene, Lucio, complimenti per la bella notizia. Voleva aggiungere qualcos'altro in 30 secondi prima di salutarci? Sì, sì, sì, volevo soltanto dire a tutti di non perdere mai la speranza, perché in realtà, come ce l'ho fatta io, senza nessun tipo di raccomandazione eccetera, ce la possono fare tutti, ecco. Grazie mille, fantastico, grazie, grazie Lucio, buona serata, auguri, auguri. Andiamo con Enrico da Pistoia. Enrico, buonasera. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Benissimo. Io volevo parlare soltanto perché io tanti anni fa avevo fatto proprio uno studio accurato sull'inquinamento eccetera. Poi ora come c'è appunto un attimo di nebbia o di stallo atmosferico e tutti tornano a parlare. Poi, un attimo, sono due mesi che non piove. Ma lei aveva fatto uno studio? Che studio aveva fatto? No, io ho fatto studio, brevetto, sono un ingegnere anch'io. Ah, dai, oggi è la sera dell'ingegnere. Perfetto, buono così. E aveva fatto uno studio, ma per questioni sue personali o diciamo per una pubblicazione professionale? No, no, no, fu... In realtà ero perito meccanico a quei tempi, 25 anni, si parla del 90, 89-90, e stavo iniziando a fare l'università a Pisa, quindi ero proprio all'inizio di ingegneria. E ero in macchina con la ragazza, un altro mio amico, e in fila al semaforo, parte la macchina davanti, e dal tubo di scappamento esce dell'acqua, che normalmente se uno fa caso alla macchina che è davanti lo nota. Però a quel punto lì la classica domanda è: ma quell'acqua cos'è? E di lì nacque proprio tutto il percorso per capire cosa in realtà fosse. E cos'era quell'acqua? Cos'era? L'ha scoperto? Perché qui tutti parlano di inquinamento, ma poi nessuno sa neanche cos'è questo inquinamento. Allora, bisogna partire dal presupposto che dove c'è una combustione... Però ce la faccia in pochi secondi, perché sennò non reggiamo. Ce la facciamo. Cioè, gli ingegneri telefonano, ma esistono anche alcuni ascoltatori che non sono ingegneri. Se no, di questa trasmissione mettiamo le note a margine e lo spieghiamo in un'altra circostanza. Cos'era quest'acqua? È condensa? Chiamata tutti la chiamano condensa, però in realtà in ogni combustione c'è dell'acqua che ovviamente non la vediamo perché durante la combustione, siccome c'è una temperatura alta, è sotto forma di... Vabbè, ma la conclusione di questo suo studio, c'è una conclusione, quindi, c'è un brevetto, sì, lei cosa ha brevettato? Condensando quell'acqua, da qualsiasi tipo di combustione, quindi si parla di marmitte, si parla di macchine o di industria, noi tratteniamo dall'89 al 99% di polveri, che tutti ora sono disperati, l'89% di NOx, e risolviamo il problema proprio dove nasce. È che a livello lei di però questa cosa scoperta supersonica ha provato a proporla a qualche azienda, certo, un breve... Si parla del 90 da allora ad oggi niente. I personaggi che sono ad oggi al governo mi chiesero di tutto di più perché no, lasci perdere i personaggi al governo. L'ha proposto alla Fiat, a un'industria a quei tempi là sì, andammo alla Fiat e facemmo un prototipo sull'Alfa Romeo e fu tutto bloccato in un cassetto perché come si chiama questa invenzione? Allora, questa invenzione in realtà, se vuole vi do anche il numero del brevetto, l'ho chiamato filtro antismog, però... Antismog, va bene, ci informiamo e verifichiamo, magari è una scoperta sensazionale, ne riparleremo. Grazie, chi era l'ascoltatore? Enrico, grazie. Insomma, questo non si può fare anche questo, però se in 25 anni non l'ha presa sul serio nessuno, forse... Ma no, non lo so, io non ho capito, che cosa fosse... Allora, smog, ci informiamo. Va bene, ancora con gli ascoltatori tra pochissimo. Adesso è il momento di un'altra notizia, vai. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone, come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento. E questo è il nostro Frank High Energy, pedala, di cui facciamo abbondante uso tutte le volte che parliamo di mobilità, di biciclette, nel weekend, nel programma Frank High Energy, nel programma del sabato e della domenica mattina si può fare, ma ve lo stiamo proponendo anche in questa versione, perché quando si dice incentivare la mobilità sostenibile, c'è chi lo dice ma c'è chi lo fa. A Massarosa, in Toscana, per esempio, il comune promette di rimborsare 25 centesimi a chilometro a chi ha i ciclisti che vanno a, a lavoro in bici. Buonasera al sindaco Franco Mungai. Buonasera a tutti, buonasera. Eccolo qua, eccolo qua, auguri anche a lei, auguri anche a lei. Grazie. In questi giorni avreste dovuto, diciamo, mettere a punto il bando per, sì, per accogliere le adesioni. Come sta andando? Esatto, il bando in effetti è stato pubblicato, è in corso, chiuderà per, si fa per dire, col 31 di dicembre. Poi se ci sarà ancora disponibilità proseguiamo anche ulteriormente anche durante il corso delle prossime settimane. Comunque il bando è in corso e ho preso notizie proprio, mi sembra ieri. Quanti? Per ora hanno aderito 25 potenziali ciclisti. Devo dire che l'interesse no, non sono tantissimi, infatti mi aspettavo una corsa, però probabilmente si riaffidano agli ultimi giorni per iscriversi, perché ma forse non ci credono, ancora non ci possono credere che ti paghino per andare in bicicletta. Che effettivamente un comune paghi ai propri cittadini se vanno a lavorare in bicicletta. Esatto. Che è una cosa straordinaria. In effetti, quando abbiamo fatto una specie di sondaggio inizialmente, le adesioni sono state 157, quindi noi l'abbiamo riservato a 50 potenziali concorrenti. Ma forse poi anche per lo smog, perché comunque pedalare con questo smog, magari uno dice... Ci facci te a pedalare in mezzo allo smog. No, ma da noi non è, da voi è meno. Un problema così assillante come si sta vedendo, sì, in questi giorni nelle grandi città. Il nostro ma un forse, comune fatto di frazioni molto sparpagliato, forse molto però verde. Sbaglio, Massarosa non è proprio in pianura. Siete... No, è un po' misto, c'è cioè una misto. Parte pianeggiante. Quindi... dove c'è la maggioranza della popolazione, poi ci sono delle frazioni collinari. Ma sai come pedalare in collina è dura. Infatti ci eravamo lasciati quando ne abbiamo parlato, sì, l'ultima volta che ci siamo sentiti, ci eravamo lasciati con questa domanda, dove io le chiedevo ma non è che ci saranno delle persone che diranno che fanno un percorso molto più lungo per portarsi a casa più soldi e dicono io per andare a lavorare faccio sempre quella strada lì, sono 38 chilometri, passo sempre. Ma questo lo possiamo anche fare se percorrono le piste ciclabili, anche se allungano il percorso purché non utilizzino le strade, perché mi rendo conto che poi anche da un punto di vista di automobilisti anche le biciclette possono essere considerate un pericolo, no? Certo. Quindi chi usa le piste ciclabili allunga il percorso, li riconosciamo anche la maggior frequenza. Però spieghiamo bene come funziona questo bando. Sì. Si può candidare chiunque, a patto che? Chiunque residente nel comune di Massarosa che si reca dalla propria abitazione fino alla stazione del treno o del bus o del luogo di lavoro dove se lavora anche fuori comune non ha importanza. Se usa la bicicletta noi gli calcoliamo il percorso, quello più corto che c'è tra i due punti. Se poi quindi lo fate un calcolo, perché se no facciamo sì, quello che facciamo diceva, sì. No, era per quello che glielo chiedevo, perché volevo sapere se qualcuno aveva consegnato delle richieste con dei percorsi passando lunghissimi da Aosta. Ma comunque no, perché poi c'è un limite mensile, si parla di 50 euro al mese e di 600 euro l'anno, quindi certo, per ogni ciclista, sì, facendo il conto a 25 centesimi al chilometro si fa presto a dire quanto è la percorrenza massima. Beh, cioè, per uno che magari già la usa la bicicletta, per esempio, sì, quindi alla fine dell'anno non solo risparmiare, sì, perché non usa la macchina, ma addirittura guadagnare 600 anche euro. Per dire una piccola cifra per dire a disposizione per altre cose, no? Certo. Però il vostro obiettivo cos'è? Convincere persone che non usano attualmente la bicicletta, sì, sì, oppure dare proprio un premio a chi già fa questo sforzo? No. Ma noi abbiamo fatto un ragionamento di questo tipo. L'Olanda era un paese dove c'era un alto numero di incidenti, un alto inquinamento, dove tutti usavano la macchina. Negli anni 70 è cominciato un processo di incentivazione dell'uso della bicicletta. Ora noi la portiamo ad esempio. Ho detto proviamo anche a Massarosa. Se iniziando un percorso, diciamo, virtuoso di utilizzo di mezzi alternativi si riesce a far cambiare la mentalità alle persone. E quindi ci stiamo provando, abbiamo cominciato in questo modo, ma non è che si risolve ora nel giro di poco tempo. Alla lunga poi vediamo se riusciamo a essere virtuosi così come, sì, come è successo in Olanda. Però ecco, io mi metto già nei panni dell'ascoltatore un po' malpensante che dice vabbè, danno i soldi pubblici, è una scelta del comune, no, a chi va in bicicletta, no, un incentivo a chi va in bici, ma poi qualche controllo ci sarà, cioè nel senso, per verificare che poi effettivamente la gente la usa. Allora, intanto facciamo fare delle autodichiarazioni che saranno soggette a controlli, più sui cellulari che ora uno normalmente usa ci sono delle applicazioni dalle quali si possono anche andare a rilevare dei percorsi, quindi velocità, saranno tracciati in qualche chiaro, modo chiaramente no, perché siamo in Italia anche a Massarosa, quindi bisogna stare attenti anche a quella. Sostenibili, certo, ma non scemi, va bene, esatto sostenibili ma non scemi, mi sembra una bellissima maglietta. Sì. E quindi ci saranno dei controlli tramite questo chip e questo, diciamo, impedirà le truffe. Al momento ci sono 25 adesioni, quindi possiamo fare un appello anche a... giustamente io volentieri ne parlo, ora faremo anche un altro comunicato sul giornale per dare questa... Ci sono altri 25 posti, giusto? Altri 25 posti disponibili e diciamo questo, non è che andiamo a usare soldi pubblici qualsiasi, noi usiamo i soldi che le infrazioni al codice della strada prevedono proprio l'utilizzo per la sicurezza stradale, quindi una quei parte fondi li prenderete. Sì, quei fondi che usiamo per fare questo progetto, diciamo, le pagano gli automobilisti con le loro multe, le pagano gli automobilisti disciplinati, esatto, disciplinati, vabbè, esatto. Bellissimo, guardi, sto calcolando quant'è la distanza da Massarosa a Milano, perché prendo la residenza a Massarosa, sono 264,2 km passando per l'A15, che forse in bicicletta è un po' difficile, però adesso mi informo e dovresti fare il calcolo anche di quanto incasseresti, però Mungai ti dice guarda che io più di 50 euro, ma io punto ai 600 euro all'anno, infatti va bene, complimenti, bene, grazie, a presto, grazie, bocca al lupo, grazie a mille, grazie, per auguri. A quanti chilometri sono? 264,2. Poi c'è il pezzo di città, perché qua è Milano. Però vedi, la Francia questa misura qua l'aveva annunciata e poi noi siamo anche tornati a parlarne. Non è chiaro se l'hanno applicata. Invece noi, vedi, zitti zitti in Italia. Più che zitti zitti, la cosa molto bella è che poi sono piccoli comuni che iniziano a seminare il germe che poi un giorno arriverà in Parlamento. Andiamo in pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua con Stefano che ci chiama dalla provincia di Genova. Buonasera Stefano. Buonasera a voi, è piacere di ascoltare la vostra trasmissione. Grazie mille. Sono intervenuto sul caso della senatrice del Movimento 5 Stelle. Serenella Fucsia. Ho fatto semplicemente un'affermazione dicendo che se esistono delle regole all'interno di un partito o di un movimento, queste vanno rispettate, che si piaccia oppure no. Direi che siamo molto d'accordo, in realtà, infatti l'unica cosa che contestavamo era nel senso che noi siamo, se ci sono delle regole, anzi forse è uno dei pochi partiti che in realtà ma le fa rispettare, io no, questa cosa non la il problema per è se per queste stesse regole alcuni vengono espulsi e altri no, e allora crolla un po' tutto, non è più un sistema democratico ma è un altro. Posso immaginare, mi sono venuti i capelli bianchi, come ho detto alla persona che ha preso la mia telefonata, ho 65 anni, che se una persona che fa parte di un movimento, si iscrive a questo movimento, visto che è nuova nell'agone politico italiano, sì, ma alla prima situazione non è d'accordo con la linea di quel movimento, non parlo della linea politica, ma devono essere le sue idee coerenti con il movimento. A questo punto la mia domanda è: cosa resta fare? Giustissimo. Ha aspettato anche troppo. Secondo me lei doveva fare una scelta coerente come l'ha fatto qualche d'un altro, si dimetteva perché diceva: ho preso un abbaio, scusatemi, mi avete scelto, verissimo, sono lusingata di questa scelta. No, ma tra l'altro la coerenza è una cosa che sta pagando. Mi faccia terminare un attimo lei, poi la faccio finire. La coerenza è una cosa che sta pagando anche in termini elettorali. Nei sondaggi il Movimento 5 Stelle è così alto. aperto, non solo per questa questione delle espulsioni, ma il fatto che la gente percepisca che c'è coerenza nel Movimento 5 Stelle rispetto a quello che viene detto e viene fatto è un valore aggiunto, non c'è niente da fare. Tra l'altro bisogna anche dire, a onore del vero, che rinunciare a un senatore, rinunciare a un senatore vuol dire rinunciare ai rimborsi elettorali, ai rimborsi dei partiti, e quindi per loro è una rinuncia. Io questo l'ho apprezzato. Posso solo dirvi, io sono un ex votante del Partito Democratico, che dopo i fatti, soprattutto che sono sorti in questa città, nella città di Genova, con la mancata candidatura del signor Cofferati, francamente questo è stato proprio l'inizio della fine. Cioè lei o Cofferati o niente? No, assolutamente, è il modo, è il metodo con cui sono state fatte certe cose. Certo. Il grande progetto di Veltroni era veramente un grande progetto del 2008, purtroppo è naufragato. Va bene, Stefano, grazie, buona serata, mille. Auguri, complimenti. Andrea da Roma, Andrea, buonasera. Buonasera, senti. Io ho sentito l'intervento dell'assessore di Milano quanto riguarda il trasporto pubblico. E lui ha colto nel segno perché io sono autista dell'ADAC. Noi abbiamo vetture, forse il parco vetture più vecchio d'Europa, hanno 14-15 anni, quindi inevitabilmente inquinano come 50-60 macchine. E queste misure che noi facciamo sono veramente ridicole, che non portano a nessuna soluzione. Bisogna investire molto sul trasporto collettivo, e per fare questo lo Stato ci deve far carico Anche Roma, quello con parco anche vetture, Roma con parco. Ha avuto le targhe alterne, però le PM10 sono addirittura anche in quel caso lì credo aumentate, quindi proprio totalmente inutili. Cioè se già il blocco non è servito, figurati le targhe alterne, proprio a zero. Andrea, lei guida l'autobus, quanti anni ha il suo autobus? O ogni giorno cambia probabilmente, no? Sì, no, indubbiamente, però in media hanno 10-12 anni. L'autobus più vecchio che le è capitato di guidare quanti anni aveva? 14-15, ma non è soltanto... Però non sembra tanto, cioè detto così 10 anni, uno ha una macchina che ha 10 anni, non sembra vecchio, anche se magari di rivoluzioni tecnologiche. Un pullman però è un po' diversa dalla macchina, va 24 ore su 24 quasi. Quanti chilometri avrà fatto un autobus che ha 10 anni? Quanti chilometri avrà fatto? Il pullman esce alle 4 di mattina e rientra a mezzanotte tante volte, quindi sta 15-16 ore fuori. Ma quanti chilometri può aver fatto l'autobus che ha 10 anni? Guardi, questo è un calcolo verso... 200.000, 300.000. No, milioni di chilometri. Un autobus a 14-15 anni, a parte c'è una legge europea che limita anche proprio l'esistenza di un pullman, ma non è soltanto... Ma sono proprio di quelli da cui dal tubo di scappamento esce proprio di tutto, no? Anche si vede anche, probabilmente sono quelle robe là. Guardi, noi a Roma abbiamo un altro problema, il problema della manutenzione strade, che purtroppo incide anche sulla vita di questi mezzi, quindi si invecchiano molto prima. Noi abbiamo un inquinamento anche acustico, non soltanto... Non vi fate mancare niente. Grazie, buona serata, alla 7. Dalla ripresa alle banche, all'Europa, dai Marò alle tasse, dal Job Act alle elezioni, 2 ore e 25 minuti per la conferenza stampa di fine anno di Renzi, che mostra tra le slide anche quella sui gufi. Il Premier traccia un bilancio del 2015 fissando i paletti per il prossimo anno. Se non passa il referendum costituzionale ho fallito e vado a casa, dice. Critiche però dalle opposizioni. Salvini e Brunetta promettono il massimo impegno per spedirlo a casa. L'ex PD da Torre ipotizza anche una data. Questo governo arriverà fino al prossimo autunno, dice. Replica Renzi anche Ignazio Marino. Il mio successore farà meglio se non avrà un governo che rema contro. E poi per i 5 Stelle sono favole quelle di Renzi a cui non crede più nessuno. Non sono serviti i blocchi e le restrizioni del traffico contro lo smog nelle grandi città. Vecchio e inquinante il parco auto circolante nel paese, compresi i mezzi di trasporto pubblici. Sono altre le misure che dovrebbero essere adottate, a cominciare da quelle nelle case per il riscaldamento, ma in pochi utilizzano gli ecoincentivi a disposizione per cambiare la caldaia o sostituire le vecchie finestre. Tra le promesse del governo sottolineate oggi anche dal Premier c'è quella di chiudere il tema delle unioni civili. Il disegno di legge Cirinna, più volte rimandato, approderà in aula al Senato il 26 gennaio prossimo. Gli alleati di Nuovo Centrodestra sono pronti però alle barricate sulla stepchild adoption, cioè la possibilità del partner di adottare il figlio o la figlia biologica del compagno o della compagna. E chissà che la misura non venga poi stralciata all'ultimo momento. A Bruxelles arrestate due persone preparavano per la notte di Capodanno un attentato nella Grand Place dove si ritrovano migliaia di persone. E in Italia un cittadino marocchino residente in Veneto è stato espulso, inneggiava l'ISIS e si era detto pronto a far esplodere Roma. Segnalarlo alle forze dell'ordine è stato il suo stesso fratello. Allora, cari ascoltatori, siete un po' scherzini come bella notizia, più bella notizia del 2015, è arrivato qualcosa, più agli sms. Direi che è una smentita quasi del discorso di Renzi, che dice che il 2015 è stato meglio del 2014, a sentire dalle buone notizie che ci danno gli ascoltatori. Per ora abbiamo un ascoltatore che ha ritrovato lavoro, un altro che ha chiamato sulla residenza in Svizzera, più che altro ironico, forse un altro ancora che non mi ricordo. Beh, continuate a chiamare 800 24 00 24, c'è ancora una cinquantina di minuti, anche perché la telefonata più originale sulla bella notizia del 2015 si porta a casa due biglietti del catalogo della mostra Tamara Lempicka a Verona o Gauguin a Milano. Dobbiamo estrarre dal calderone. Però dovete impegnarvi, perché noi Si può fare, siamo degli esperti di buone notizie. Sgamiamo subito se raccontate balle. Mario da Milano, buonasera. Buonasera, volevo intervenire per quanto riguarda il car sharing di Milano. Io sono un tassista milanese. Prego. E non sono d'accordo con l'assessore Maran che definisce il car sharing come servizio taxi. Pubblico. Sì. Non è nemmeno inquadrato come servizio pubblico. È un servizio privato a pagamento, non è per tutti. In che senso? La seconda cosa, è come il taxi, anche il taxi non è per tutti, è a pagamento, però è equiparato a servizio pubblico. No, è diverso, perché il servizio taxi è un servizio pubblico. Ma intanto i taxi hanno le corsie preferenziali, il car sharing non credo, per esempio, per fare una differenza. Ma il car sharing poi è tutta benzina, comunque inquina, e non è che tutti quanti hanno la possibilità di prendersi un car sharing. No, ma per come, voi taxi, no? Come i taxi che inquinano e costano, e non tutti possono permettersi. Da società private, non c'entra niente con il servizio pubblico. Certo. Però l'assessore Marano, lui era un fautore anche di Uber, che comunque erano abusivi in tutto per il mondo. Per voi è concorrenza. Vabbè. Io però in effetti devo dire che su questa cosa io su questa cosa gliel'ho detto, perché se l'obiettivo è ridurre le emissioni, allora dovresti fermare tutte le macchine, quindi anche i taxi. Beh, il taxi però è un servizio essenziale, un servizio pubblico essenziale, normalmente viene ritenuto così, ci sono le preferenziali. Siamo inquadrati come servizio pubblico, il car sharing no, non è un servizio. Poi molte auto taxi sono elettriche, lei ha l'auto elettrica o no? No, non è elettrica, però insomma, il fatto è che gli incentivi per le auto elettriche, per i taxi, ha proprio una autonomia molto limitata per il nostro lavoro, perciò e metterli in carica sarebbe un po' problematica. Sì. No, ma ce ne sono, di ibride ce ne sono parecchi. Però diciamo, voi il car sharing il car sharing vi fa una bella concorrenza, quindi diciamo che non è che vi sta molto simpatico. E quindi io non ho capito la precisazione, nel senso che sta dicendo, secondo lei è stato sbagliato che durante il blocco potessero andare il car sharing? Esatto, sì, beh, questo. È un'obiezione che è circolata, e abbiamo fatto la domanda anche a Maran, che ha risposto, e va bene, grazie. Un altro messaggino al nostro sindaco, perché visto che hanno beccato che a Strisce con 25 gradi esiste i palazzi della regione, Palazzo Marino compreso, la risposta del sindaco è stata: io c'ho caldo, apro la finestra. Cioè questo. No, scusi un attimo. Me la ridica un attimo, perché a me non stiamo parlando di Pisapia? Sì, siamo qui, si è fatto un controllo di tutti i palazzi della regione, di Palazzo Marino e Compagnia Bella, e dentro quei strumenti aveva tutti 24-25 gradi. Non l'ho visto, Strisciano. Ho fatto l'ordinanza di abbassare a 19. La risposta del sindaco è stata: ma io effettivamente ho molto caldo, ho aperto le finestre. Questa è una bella figura di M. Io non l'ho visto, Striscia la notizia, se è andata così sicuramente una figuraccia. Grazie, buona serata. Ecco con noi uno dei personaggi simbolo di Si può fare, perché è uno che riesce sempre in grandi eventi rendendoli una cosa che sembra facile facile. Fabio Zaffagnini. Ciao Fabio. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Ciao. Ti lascio a te di dire perché abbiamo scelto i Motorhead questa sera. Sì, perché il povero Lemmy ci ha lasciati e siamo tutti tristi, oggi è un giorno triste un po' per tutti noi rockettari. Il cantante e bassista fondatore del gruppo, dei Motorhead, se n'è andato. Esatto. Fabio, noi ci siamo sentiti svariate volte perché diciamo il grande evento che ti ha visto protagonista è stato l'organizzazione di questa esecuzione di un brano dei Foo Fighters a Cesena per invitare il gruppo a venire a suonare. Una delle buone notizie del 2015. Una delle belle notizie, straordinaria. E poi siete riusciti a convincerli, no? Nel frattempo, e sono venuti non tanto tempo fa. Sì, sono venuti, hanno tenuto un concerto a Cesena per pochi intimi il 3 di novembre, quindi è stato un grandissimo successo un po' per tutti. E quanti eravate? Perché te per pochi intimi? Perché noi avevamo chiesto un concerto a Cesena ed inverno di posti grandi per ospitare tante persone non ce ne sono, quindi abbiamo preso il Carisport, che è il posto più grande che abbiamo. C'erano circa 3.000 persone e diciamo che tra donatori, musicisti, persone che hanno lavorato al progetto Rock in 1000, l'avevamo praticamente riempito. L'avete riempito tutto, perché forse dobbiamo ricordare. Bisogna farne un altro. È stato un evento bellissimo. Questo sì. È l'organizzazione di un concerto. Correggimi ovviamente se sbaglio, con 1000 band che suonavano contemporaneamente una canzone per chiedere ai Foo Fighters di fare un concerto a Cesena, giusto? Esatto, 1000 musicisti che hanno suonato tutti insieme contemporaneamente un pezzo dei Foo Fighters al Parco Ippodromo di Cesena quest'estate. Abbiamo fatto un video, l'abbiamo messo online su YouTube e il video ha avuto un successo incredibile. Sì, quante milioni di visualizzazioni ha avuto? Oggi abbiamo superato i 28 milioni di visualizzazioni. Cavolo. Tra l'altro e suonavate a tempo, 1000 musicisti, è incredibile. C'era anche il direttore d'orchestra. Esatto, sono stati tutti fenomenali perché erano perfettamente sincronizzati grazie alla loro bravura e anche grazie un po' alle persone che hanno lavorato e al direttore d'orchestra che è Marco Sabio. Sì. È stata una storia veramente notevole, pazzesca. Adesso... L'abbiamo anche premiata a Milano, al Milano Film Festival. Bravi. Esatto. Adesso ne avete pensato un'altra delle vostre, perché questa volta avete voluto rispondere, a, sempre in tema di rock, al leader dei Coldplay che ha detto il rock è morto. E voi, aspetta un momentino. Sì, perché insomma è una cosa che ci ha colti un po' di sorpresa, nel senso che una dichiarazione di qualche settimana fa di Chris Martin che diceva che il rock è morto è una cosa che ovviamente non è che ci trovi particolarmente d'accordo, soprattutto alla luce di quello che è successo quest'anno, quindi abbiamo deciso di rispondere un po' alla nostra maniera. Abbiamo organizzato in 448 una sorta di Rock in 1000 virtuale, cioè abbiamo chiesto a tutti i musicisti che sono iscritti al nostro sito, tutti i nostri musicisti, di registrare una traccia di un brano sempre di Foo Fighters che si chiama Saint Cecilia, e tutte queste persone, sono davvero diverse centinaia, hanno registrato a casa una parte di questo brano, ce l'hanno inviato e noi lo stiamo montando per poi pubblicarlo all'inizio dell'anno prossimo. Sarà qui, un po', se uno è un... Vai, scusami. Sì, sarà un po' l'evento conclusivo di quest'anno e l'apertura per i progetti dell'anno prossimo. Quando lo pubblicate, hai detto? Il 1° di gennaio sarà online. Cioè, se uno è un musicista ed è vostro amico, è veramente difficilissimo, perché continuamente gli chiedete o di suonare in 1000 tutti insieme o di registrare una traccia che poi voi montate insieme a altre 740 tracce. Insomma. Esattamente. Non vogliamo che le persone si annoino. Esatto, siete una fucina. Non ci si annoia mai. Di idee. Resta con noi, Fabio, perché dobbiamo fare informazioni sul traffico. Poi ti vogliamo chiedere anche un po' qual è il vostro segreto, come diavolo fate a riuscire sempre in questi strepitosi eventi. Ci fermiamo un attimo. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Eccoci di nuovo insieme a Fabio Zaffagnini. Fabio, ma tu nella vita che lavoro fai? Cioè, a mia nonna che ha 90 anni ma è ancora lucidissima, come lo descriveresti il tuo lavoro? Beh, io originariamente ero un geologo marino, mi sono laureato in geologia, poi ho cambiato, adesso faccio lo start-up, cioè ho avviato una start-up mia e niente, vado avanti con le mie idee. Faccio cose e vedo gente. Più o meno sì. Ma senti, qual è il segreto di questa rete di persone che sta con te? Avete organizzato questo evento pazzesco. Quanti siete intanto? Allora, noi come gruppo di base siamo una decina di persone, sono tutti super esperti e dei grandi professionisti in vari ambiti, dal social media fino al project management, all'area video, a detti stampa, insomma bene o male siamo ben strutturati. Ma come comunicate per esempio tra di voi? Cioè, nel senso, visto che siete così bravi in poco tempo a mettere su degli eventi così pazzeschi, cioè avete delle cose particolari oppure usate l'SMS anche voi, WhatsApp? Tra di noi, a dire la verità, insomma, io sono a Cesena, due persone stanno a Milano, una sta a Roma, una sta in Sardegna, una sta a Firenze. Però esiste Skype. Sì, siamo tramite Skype, tramite WhatsApp, tramite mail, Cose normali così. Sì, niente di che. Però avete potenziale, potreste fare anche delle cose, mettere a frutto per risolvere dei problemi anche grossi, tipo eliminare lo smog a Milano. Mi metto un'idea. Perché ne so, magari potremmo provare a pensare a una buona idea per farlo, insomma sarebbe qualcosa di davvero utile, insomma, al di là della musica rock. Portare però tutti dei ventilatori, io ci ho pensato, me la immagino questa scena, secondo me potreste realizzare una serie di ventilatori che dal basso verso l'alto spingono via lo smog, ma questa è una follia. Invece voi avete in programma qualcosa già per l'anno prossimo? Sì, in realtà ci stiamo lavorando già da diversi mesi, i progetti sono sempre più definiti, in realtà non è che possa fare delle anticipazioni molto precise. Noi speravamo perché almeno per una volta potevamo anticipare, qui a Si può fare, una di quelle cose mirabolanti che fate voi. Ma qualcosa che possiamo dire è che sicuramente l'anno prossimo faremo almeno un evento, sarà diverso da quello che abbiamo fatto quest'estate, perché il successo è stato talmente grande ed è venuto talmente bene che non avrebbe senso ripetersi esattamente come abbiamo fatto l'anno scorso. Però sicuramente sarà un live, sicuramente coinvolgeremo tantissimi musicisti e sicuramente ci sarà da divertirsi. Anche perché, se posso dire una cosa, alzate un po' l'asticella dello scontro, nel senso che adesso è molto più difficile. Voi ce l'avete fatta con i Foo Fighters, è stata una cosa incredibile che nessuno si aspettava che ce l'avreste fatta, ma adesso non credo che basta riunire 1000 persone che cantano contemporaneamente, non so, una canzone di Guccini per convincerlo a fare un concerto, perché bisogna essere almeno in 3000, bisogna fare una roba sempre più difficile, perché ormai questa l'avete fatta voi e non è che si può semplicemente replicare. Quindi state un po' alzando l'asticella, o sbaglio? Sì, cioè nel senso, probabilmente non avremo l'obiettivo di chiedere a qualcheduno di fare qualche cosa, sì, ma cercheremo sicuramente di coinvolgere sempre tanti musicisti e far loro qualche cosa di più impegnativo. Anche perché una cosa di cui ci siamo accorti è che dal punto di vista dell'online tantissime persone hanno visto quello che abbiamo fatto, ma in realtà c'è un enorme potenziale anche dal punto di vista di un live, perché vedere tante persone che suonano contemporaneamente, vedere dal vivo, è un'esperienza davvero indimenticabile, quindi stiamo andando un po' verso quella direzione. Ah, perfetto, direi che è già un'anticipazione. Sì. Va bene, grazie Fabio, auguri. Ma non ti rubiamo l'idea. Auguri a voi, auguri a tutti, grazie. Auguri, ciao. Allora, su WhatsApp, al nostro SMS 349-238-6666 ci scrivono: i taxi ad Amsterdam al 90% sono auto elettriche, della Tesla tra l'altro. Io non ricordo, non so se è così, possibile. È un messaggio al tassista che ha chiamato poco fa dicendo che lui non aveva l'auto elettrica e che però come servizio pubblico i taxi circolano normalmente anche nei giorni di blocco. Sarebbe bello che fossero tutte auto elettriche. Chissà se ad Amsterdam le hanno incentivate, però. Di sicuro, perché a Milano di taxi loro elettrici ce n'è veramente pochissimi. Sono pochini. Qualcuno. Fabio da Perugia, buonasera. Da Gubbio, sì, provincia di Perugia. Buonasera. Buonasera, sono un appassionato di Gubbio. Ah, bene, abbiamo l'albero di Natale adesso. Ottimo, in piazza, bello? Sì, molto bello, è suggestivo. carinissimo. Albero vero? Cioè, proprio... No, è un albero di Natale con delle lampadine, praticamente delle luci messe su una montagna, quindi è... l'albero di Natale più grande. È, è scontornato, è un albero straordinario, sapevo, che c'è a Gubbio, che fanno tutti gli anni, che è il contorno su una collina, Radio 24, la montagna, tutta Italia, Guinness dei primati, poi. Esatto, esatto. Fantastico, bene. Dici tutto. Io chiamavo per un'altra cosa, io mi occupo di telecomunicazioni, sì, e sono convinto, straconvinto da tempo, che molte persone che prendono la macchina e vanno a lavorare davanti a un computer e a un telefono, ma sono tante queste persone. E potrebbero lavorare da casa, il telelavoro. Lavorare da casa, cioè con le tecnologie di adesso io posso anche mettere una telecamera per vedere che lavori davvero. Un controllino, no? Una webcam. Un controllino, no? Posso fare una videocomunicazione, posso portarti l'interno della mia azienda dentro casa, quindi... Cioè, sì, stai in ufficio, tutti gli ci allora, si sta sì, lavorando un po' a questa cosa qua. Per esempio, noi si può fare edizione weekend. Abbiamo raccontato della giornata del lavoro agile che si fa a Milano, che poi è la nostra città, nella quale in quel giorno lì tutte una serie di aziende aderiscono e fanno questa cosa che dice l'ascoltatore. Però, però magari, solo quel giorno lì andrebbe fatto. Lei ecco, dice... specie in questi periodi sì, di inquinamento, cioè sarebbe l'ideale, cioè, che molte aziende decidono, oppure che ci siano dei, chiaramente governo, enti pubblici, non so chi, che diano degli incentivi. È il classico salto culturale che bisogna fare. Ma io fare, mi chiedo, a lei piacerebbe invece che sì, andare in azienda? Perché non, me lo chiedo sempre, perché per certi versi uno dice certo, molto meglio, così non esco, sto in pigiama, un sacco di cose. Però per l'altro uno sta a casa da solo e lavora davanti al computer e non vede nessuno? Ma tanto in ufficio a volte l'ambiente è anche peggiore, e in più, in più io dico che uno quando esce, esce per divertirsi così. Sì. Cioè, facciamo che ci potrebbe essere una bella via di mezzo. Mi cioè, piacerebbe fare che, un referendum, perché non lo so esatto, se poi uno c'ha voglia di stare a casa con la moglie, o col marito, con i figli, non lo so. Magari molti dicono ho dei problemi, spendo di più perché devo tenere sì, il riscaldamento acceso magari a casa. Ah, però, ecco, a questo non ci avevo pensato, in effetti è vero. Un problema, però. Probabilmente se lo chiedi a chi va in ufficio tutti i giorni, magari lontano da casa, ti direbbe che sogna di poter stare a casa. Esatto. E poi esatto, viceversa, quello che magari il freelance che sta sempre per conto suo dice: magari avessi un ufficio a vedere una sì, faccia ogni sì, tanto qualcuno a salutare. Comunque, Fabio, ma voi pensate solo a Roma, tutti sì, i ministeri, tutti i ministeri con tutti gli impiegati, quanto traffico di veicoli. Con però già i ministeri, quando uno va al ministero, non funziona nulla, figuriamoci. Se non c'è nessuno e uno adesso arriva al ministero e dicono: guardi, non c'è nessuno, sono tutti a casa a lavorare. Allora non lo so, chiudiamo, allora non so se siamo pronti a questo. Ciao Fabio, grazie, buona serata. Grazie, grazie mille. Raffaella da Arezzo. Ciao. Bella. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, io ho chiamato perché avete detto che volevate sapere qual era la notizia per ogni ascoltatore, insomma, sì, più bella di quest'anno. Certo. E la notizia più bella per me è stata che ho pubblicato il mio primo libro, che si tratta di un giallo, e quindi per me questo è stato un anno... ovviamente molto bello. Ma ti permettiamo anche di dire il titolo? Allora, il titolo è Quadretti del Trasimeno con vista. Perfetto. Perché è un giallo ambientato al lago Trasimeno. Ah, però, bello il titolo. Ma è autopubblicato o pubblicato da una vera casa editrice? No, no, pubblicato da una vera casa editrice che si benissimo, chiama Core Book, che è di Perugia. Beh, complimenti. È bellissimo. Poi, se posso dire, è una notizia che mi accomuna, perché anch'io quest'anno ho scritto il mio primo libro e ma quindi va, sono non contentissimo, lo sapevo, di questo. E quindi ti capisco. Fantastico. Ti capisco tantissimo e ti abbraccio. Complimenti Raffaella, veramente. Grazie. Per questo libro. E poi possiamo dire, anche se abbiamo 25 minuti, non più di sì, programma, ma vale magari anche per domani, che potete chiamare anche per delle notizie più ampie, cioè possono essere anche notizie che riguardano il mondo intero, cioè notizie vere, no? Non solo cose personali, certo, però come voi avete letto in chiave positiva una notizia di quest'anno. 800 24 0024. Tra poco c'è la borsa, facciamo in tempo a fare un altro ascoltatore però. Giovanni da Pisa. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, niente, io sono a proposito di buone notizie. Se io devo dire la mia buona notizia, la mia personale, perché ho potuto abbracciare Papa Francesco, e sono un pellegrino che ha accompagnato a Roma altri pellegrini ciechi, a piedi naturalmente, quindi sì, questa è stata una mia grande soddisfazione, ma non è per questo. Io volevo... Beh, già, questo... è già una notizia che comunque si candida per il concorso. Vabbè, comunque non è questo. Comunque è possibile vedere queste immagini anche sull'Osservatore Romano in un'udienza del 20 maggio, ma comunque questo non è... Io vorrei augurare un buon anno a quei direttori di banca che hanno truffato tanta gente e che lo Stato non riesce a costituirsi parte civile. Noi siamo cittadini, lo Stato dovrebbe difenderci. Non si è costituito parte civile. Questi signori hanno voltato l'angolo, si sono cambiati casacca, sono ritornati e dicono: noi non sappiamo niente, sono già pronti a fare altre truffe. Anziché mandare a giro con le toppe al culo, queste persone, gli è stato cambiato l'abito, magari di Valentino o di altri griff, hanno cambiato l'abito, si sono rimessi direttori di banche delle stesse banche, non conoscendo le truffe che hanno fatto prima. Questo sta succedendo, ragazzi, questo sta succedendo, e lo Stato, anziché costituirsi parte civile a difesa dei cittadini, oggi il signor Presidente, mio conterraneo, Presidente del Consiglio, ha detto la più grossa mischerata di questo mondo, dicendo: faremo in modo... Rimborseremo che... chi è stato truffato. No, non ha detto rimborseremo, faremo in modo di rimborsare, faremo il possibile per rimborsare coloro che sono stati truffati, noi faremo in modo di poterli rimborsare. Non ha detto rimborseremo. Il politichese è molto diverso. No, è vero, c'è dell'ambiguità in tutto questo. Esatto. Condivido anche il giudizio su alcuni manager. Il giudizio su alcuni manager di queste banche che hanno incassato, tra l'altro, dei bonus straordinariamente elevati per il tipo di banche, perché è stato detto anche questo, ci vorrebbe un po' di proporzionalità, si trattava comunque di banche, non delle multinazionali. Detto questo, poi bisognerà per forza andare a vedere caso per caso, perché le cifre che stanno emergendo sono anche di risparmiatori che avevano dei profili di rischio più alti e hanno comprato più o meno coscientemente dei titoli nei quali certo non era detto che dovessero andare in fumo i risparmi, però insomma, c'è anche una quota di persone che purtroppo hanno, come dire, investito in maniera incauta, ma quello che è stato detto è che se verrà certificata una frode, cioè se tu avevi un profilo di rischio basso e ti hanno dato la roba che non era adatta a te, quelli verranno rimborsati. Se poi questo non avverrà, allora saremo autorizzati tutti ad andare a occupare Palazzo Chigi per questa mancata promessa. Borsa. Per chi ama le tradizioni e per chi preferisce il cambiamento. Per chi vuole tenere la mente sempre sveglia e per chi non rinuncia alle sue passioni. Per chi vuole restare sempre aggiornato anche sotto le feste. Le nostre voci, le notizie, gli approfondimenti e le grandi storie sono con te anche in vacanza. Tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri da Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, aspettiamo ancora un po' di vostre belle notizie del 2015 per giocare con noi questa sera. Tra poco riprendiamo con gli ascoltatori, adesso titoli del TG1. Renzi 2015 con il segno più, Italia paese solido e stabile, via libera alle riforme oppure ho fallito. Critiche, le opposizioni, i centristi frenano sulle unioni civili, possibile espulsione del sindaco 5 Stelle di Gela. Limitazioni al traffico, ma lo smog non si ferma, livelli aumentati a Milano e Roma, domani vertice al Ministero. Belgio, blitz, antiterrorismo, due arresti, sventati attacchi per Capodanno nella Grand Place a Bruxelles. Caso Cucchi al TG1, le intercettazioni dei carabinieri indagati per la morte del giovane arrestato per droga. Capodanno senza botti, vietati in 850 comuni, le motivazioni dalla sicurezza al benessere degli animali. Esce il 1 gennaio Quo Vado, nuovo film di Checco Zalone, storia di un lavoratore in mobilità. Da bambino sognavo il posto fisso, invece da grande faccio un lavoro precario, cioè l'attore. Insomma, stavamo notando questa base del TG1, la basetta musicale del TG1 è davvero come dire, come definirla? Un po' strana, sembra un film giallo, un po' inquietante anche. Beh, un po' Dario Argento. A me piace Argento. Perché uno dice: adesso arriva la buona notizia. No, esatto, arriva, invece hanno un'altra concezione. Arriva il nome dell'assassino, cioè, arriva il nome dell'assassino. Mi piace moltissimo. Ti piace? Sì. Piace? Vabbè. Allora, adesso cosa facciamo? Andiamo a casa? No, siamo qua ancora per un po'. Andiamo con... sto cercando un ascoltatore, lo trovo. Ecco, appunto, Patrizio da Milano, buonasera. Patrizio da Milano, buonasera. No, non c'è. C'è, non c'è? Non c'è. Allora, è andato a cena. È andato a cena, giustamente. Carla da Torino. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, volevo portare una considerazione molto triste. Io chiamo da Torino. Dunque, qui a Torino... Prepariamo i fazzoletti. Sì. Dunque, qui a Torino negli appartamenti ci sono mediamente 25 gradi. Chi non ha le caldaie autonome, questo è quanto. Sì. Perché, ma per legge? Per legge così, no? No. Qui arrivano 25 gradi perché io ho misurato nel mio appartamento. Lei che piano sta, per esempio? Io abito al terzo piano. Sì. Qui non ci sono le caldaie autonome, non ci sono ancora le valvole. Più. Perché spesso succede anche questa cosa, che magari ai primi piani si scalda per avere i 22 gradi, si scalda e poi il calore sale e all'ultimo piano ce ne sono 28. Benissimo, in via Roma, che insomma tutti saranno andati in via Roma dove ci sono... No, io no, mai. Va bene, e ci sono degli store tipo H&M, va bene. Cello, una via centrale di Torino. La via centrale di Torino, lei entra in questi posti, le povere commesse sono con i top estivi e chi entra deve togliersi tutto il possibile che si possa togliere. È vero, certo, è caldissimo. Per provare altri vestiti deve togliersi tutto quello che ha addosso. Bisogna... per andare nei camerini. No, proprio per il caldo che fa. Bisogna vedere queste commesse in che condizioni lavorano, dal caldo che c'è, perché poi si parla con queste persone, quindi ti dicono. Negli uffici pubblici, io ci sto andando in questi giorni, ci sono le finestre spalancate e si muore di caldo. No, ha ragione. Tutto ciò è sbagliato, è indecente, certo. Non so come dire. Sì. Ecco, quindi Carla... E quindi io penso, primo, che i miei concittadini sono dei mugugnoni e poi non fanno niente, perché non ho mai sentito nessuno da Torino chiamare e dire: a Torino si muore di cioè, è sempre un piemontesismo, così, mugugnoni è sempre un piemontesismo che comunque è di facile comprensione. Prego. Credo che abbiano capito. Certo, tutti, cioè, perché è molto onomatopeica, dà proprio l'idea del mugugno, che uno sta lì a fare mugugno. Perfetto. A parte che il blocco del traffico, sono concordo, serve molto a poco. Certo. Credo che ci sia un'ordinanza del 93 e andrò a vedere però qui non si fa nulla, assolutamente nulla. Guardi, penso che bisognerà rivolgersi qui a Superga, abbiamo la Basilica, la Madonna delle Vittorie. Questa è un'ipotesi, ecco. Io le voglio raccontare, grazie intanto, buona serata. L'altro giorno ero in un negozio a Milano e le commesse mi hanno detto: su, chiuda la porta velocemente perché entra il freddo. No, perché se passa uno del comune che fa i controlli vede che abbiamo la porta aperta e quindi diciamo facciamo entrare il freddo e dobbiamo poi alzare il riscaldamento, ci fanno la multa. È molto corretto. Quindi evidentemente qualcuno ogni tanto gira a fare controlli. Questo è importante, nei poi che nei negozi faccia un po' più caldo è comprensibile. Ma mi però sembra. Ha ragione, ascolta, certo, a volte ti detto, poi troppo... c'è quel getto di calore all'ingresso proprio per le porte apribili così scorrevoli che devastante. Tu arrivi col piumino. È devastante per la salute. Ed è stupendo perché il giorno in cui spengono quello, di solito accendono l'aria condizionata. Quindi passa da uno all'altro. In realtà sono povere commesse che in realtà muoiono a mazzi, così proprio come è un'epidemia di commesse. Allora, mi fai fare anche Enzo da Padova, che penso possa avere una buona notizia di quest'anno. Enzo, buonasera. Buonasera, sì, la mia buona notizia è questa, finalmente quest'anno siamo riusciti a far ripartire un investimento che era fermo, abbiamo convinto i soci a mettere i mezzi finanziari che servivano, arriveranno anche le banche. Quindi... Ma parliamo di un'azienda? Parliamo di una serie di aziende che si sono messe insieme per fare un investimento pubblico che ha una finalità pubblica alla fin fine, perché si tratta di un impianto di trattamento dei rifiuti che era fermo per diverse ragioni. Dove? A Padova? Nella sua città? No, nel centro Italia. L'investimento è nel centro Italia. Quindi la buona notizia è che parte questo progetto imprenditoriale. Riparte. Ma non è un inceneritore, è un termovalorizzatore? No, è una cosa particolare. Che noi siamo un po' criticini nei confronti degli impianti che bruciano, perché bisognerebbe riciclarli. No, assolutamente. Il contrario, proprio. Presuppone la raccolta differenziata e tratterà la parte organica della raccolta differenziata. Perfetto. Okay. Va bene, complimenti. Questa è una bella notizia. C'è una finanza che funziona, insomma. La finanza non è solamente... Ma finanza intende privata, cioè banche? Finanza privata fatta da soci privati e anche da banche. Sì. Oh, ci sono anche le banche che funzionano. Beh, ce lo sapevamo. Comunque è una conferma. Grazie, Enzo. Bello ricordarlo che comunque appunto l'investimento in questo momento di reinvestimento sembra di dire Ebola con quello che succede. Quindi invece è interessante qualcuno che dice: vabbè, c'è stato un buon investimento, perché d'altronde poi anche le buone notizie poi spesso partono da investimenti. Qualcuno che ci deve mettere dei soldi. We're jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price, we're the living sacrifice. We're jamming till the jam is through. We're jamming. The thing that jamming was the thing of the past. Bob Marley a Radio 24, ma è l'inizio di una buona notizia. Già questa di per sé è una buona notizia. Si sta suonando Bob Marley a Radio 24. Esatto. Arriviamo, adesso arriviamo, Aspettiamo ancora un po'. Allora, anche se non è per niente stagione, a noi ci ha colpito questa notizia qua. Ad Alassio, in Liguria, sta per nascere il primo gelato alla canapa, al gusto di canapa. E noi siamo dei tifosi della canapa, perché... È detto così, sono come già sempre, partiti risolini, tu rischi sempre. Ma io rischio sempre, perché tu invece? Perché noi... Io ho la certezza, io sono a favore, quindi proprio non ho dei problemi. Ecco, cioè, a 360 gradi, come si dice, quindi anche in quella direzione. Ma noi sappiamo quante sono le virtù di questa pianta, non solo quella per cui la pianta canapa è... famosa, non solo diciamo come sostanza psicotropa, esatto, ma anche per tante altre cose che adesso vi racconteremo. È con noi Emanuela Baudana, titolare della gelateria Per Le Co. Buonasera Emanuela, si è spaventata? Pronto? Dalla lunga introduzione, non so, è caduta la linea. Non è con noi la titolare della gelateria Per Le Co, che ad Alassio commercializza il gelato alla canapa. È con noi? No. È caduta. Che poi è il gelato alla canapa o è il gelato alla marijuana? Non si può dire gelato alla marijuana? Questa era la prima domanda. Ah, è la prima domanda. Beh, ma possiamo iniziare a parlarne noi, no? Te la sei giocata. Vabbè, ma adesso quando risponde al telefono gliela rifacciamo. Oppure ha mangiato troppo gelato, forse. Poi io vorrei sapere anche... È infame chimica. Esatto. Che gusto ha, che sapore ha il gelato alla canapa. Emanuela? Pronto, mi sentite ora? Eccola. Buonasera. No, non ho mangiato gelato. Voce squillante, voce argentina, come... ogni tanto usiamo dire di una nostra collega, possiamo dirlo, Claudia Schiattone, voce argentina. Allora salutiamo Claudia, auguri Claudia. Emanuela, allora sì, buonasera. Lei è in gelateria adesso? Sì, gelateria Per Le Co. Tra l'altro gelateria d'inverno, sì, qualcuna resiste, ma con questa stagione riusciamo a andare bene lo stesso, ma abbiamo un buon clima adesso. Ma poi è un classico Liguria. Di Natale il gelato. Non so per quale motivo, nel senso che in effetti tutti dicono ma è solo d'estate. Cotechino, lenticchie e gelato, non so, a casa mia è un classico a Natale, c'è il gelato proprio fisso. Sì, sì, sì, poi noi quest'anno abbiamo fatto anche i panettoni ripieni di gelato, quindi... Ma appunto, beh, questa è una cosa eccezionale, eh? Ma arriviamo! Arriviamo. Che... Arriviamo al gelato, alla canapa. Ecco, intanto è già pronto, l'avete già preparato, so che state lavorando alla ricetta. Stiamo lavorando al bilanciamento, sì, e contiamo di averlo pronto per il 31, per la notte di Capodanno. E al momento siamo in attesa, non è detto che sarà pronto? No, è pronto sicuramente, perché le prove vanno bene, quindi dobbiamo solo aggiustare due cosine, ma è pronto. Per il momento ci sono i cioccolatini. A che gusto state lavorando? Cioè, che gusto ha il gelato alla canna? Cosa assomiglia? Assomiglia un po' alle noccioline. E chiaramente, magari tostandolo un attimo, esaltiamo un attimino il gusto e le proprietà. Ma posso fare la domanda che tutti vogliono fare? Contiene o non contiene il THC? Assolutamente no. Non lo contiene. No, così tranquillizziamo tutti. Il THC è il principio attivo della marijuana quando si fuma, diciamo. Sarebbe, in quel caso sarebbe proibito, no? Sarebbe illegale. Sì, però siccome si inizia a parlare di legalizzazione, magari era solamente un gelato per malati terminali e iniziava. No. I semi di canapa non contengono THC. Perfetto. Sì. Ma come ve la procurate intanto questa canapa? Perché si trova facilmente in stazione centrale. Volevi dire? Allora, siamo in collaborazione con un'associazione di canapa ligure. Sì. Che è un'associazione che ci fornisce i semi di canapa per poi perché oggi in Italia per produrre la canapa bisogna avere dei permessi particolari, non è che lo possono fare proprio tutti, vero? Ma questa qua è canapa alimentare. Quindi sì. È una cosa proibita. Diciamo che però è la pianta da cui poi si può anche trarre il resto. Perché allora io l'ho detto. Poi è bello canapa ligure, perché comunque è anche a chilometro zero, quindi questo sì, gelato alla Maria. È anche a chilometro zero, sì, certo. Perché la pianta, la canapa, è una pianta che si coltivava in Italia, ha delle virtù incredibili. Allora serve per fare i tessuti, serve per fare i semi, gli oli, per questioni alimentari, per addirittura nell'edilizia. Adesso si fanno i mattoni di canapa. La Ed carta. È importantissimo ricordarlo, perché io adesso prima facevo lo spiritoso e chiedo scusa. Una in filiera. Però noi ce ne siamo occupati spesso. È il cotone. È un materiale incredibile. E tra incredibile. L'altro ha una resa eccezionale nel momento in cui si fa una piantagione di canapa, perché è una pianta che cresce molto florida e quindi in poco spazio. Rende e non ha bisogno neanche di pesticidi e niente, quindi è naturale completamente. Però si è persa un po' la coltivazione in Italia della canapa, no? Come mai negli anni? Cosa è successo? Perché l'hanno associata probabilmente al discorso del THC, uno stupefacente, diciamo, chiaramente. La produzione si è spostata nelle vasche da bagno di alcuni studenti. Sì. No, noi a livello alimentare è un'ottima cosa, perché è buona, è salutare, è sana, è un alimento ricco di proteine. Ma è vero che Emanuela, che lei ha pensato sto gelato anche per suo marito, che è uno che fa sport e non mangia carne? Sì, è proprio così, è nata così, perché lui corre e quindi correndo non mangia carne, aveva bisogno di proteine e ha cercato un alimento che fosse ricco di proteine, di sali minerali. E si è imbattuto nella canapa. E si è imbattuto nella canapa. Però... che la mangiava a casa con lo yogurt, che a questo punto ci interessa. Fatto diventare un gelato. No, anche perché devo dire che è abbastanza particolare, nel senso che tutti quando si è a dieta hanno bisogno di proteine, prendono le proteine in qualche altro modo, di solito consigliano i fagioli più che la marijuana, più che la canapa, chiedo scusa. E quindi mi chiedevo come mai invece, cercando delle proteine, cerca chi ti cerca, si arriva proprio alla canapa. Però ci stai dicendo che in realtà lui già la mangiava insieme allo yogurt. Sì. Mangiava proprio i semi insieme allo yogurt, perché ha visto che sono... In realtà un alimento come la canapa non c'è in natura. È veramente una cosa stupenda, perché ha un sacco di calcio, di fosforo, di potassio, c'ha la vitamina B, la vitamina E, quindi sono tutte cose che anche mangiando i fagioli non credo che abbiano le stesse probabilità. L'avesse saputo, e poi un gelato ai fagioli secondo me è anche più difficile da commercializzare. Non è la stessa cosa. L'avesse saputo Bob Marley, perché è vero che l'avete dedicato anche a Bob Marley questo gelato? Sì, chiaramente come associazione gelata alla canapa Bob Marley ci sta, anche voi non agite diciamo ad allontanarlo da ma va bene questo è vero, ha ragione, però è una trovata pubblicitaria in qualche modo, ci sta, così ci sta. Se ne parla almeno. Quindi quando uno entra nella gelateria per le code di Alassio, in filo di fusione c'è Bob Marley, sì, si sente, sì. Bob Marley. Sicuramente il 31 sicuramente ci sarà quello, ci sarà Bob Marley e ci sarà il gelato. Bene, comunque noi siamo contenti perché così ci ha dato un contributo alla riscoperta di questa pianta che, scherzi a parte, diciamo, ha queste virtù, insomma, poi... Sì. Anzi, in realtà è molto importante ricordarle perché c'è anche è veramente... la fiera della canapa ogni anno si fa. È veramente un caso specifico in cui una pianta è stata denigrata per colpa... Di una parente, non so come dire, è come tutta una famiglia, certo. Tutta una famiglia che viene mandata sulla gogna per colpa di un parente che ha peccato. Grazie mille, auguri a Manuela. Grazie, auguri. Arrivederci. E buon gelato alla canapa. Get up, stand up. Stand up for your right. Allora, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme agli ascoltatori e chiamiamo Roberto da Pavia sulle note di Bob Marley. Roberto? Sì, buonasera. Sera. Buonasera. Niente, la notizia che io posso, diciamo, portarvi quest'anno è una notizia, magari guarda un po' lontano. Non abbiamo capito, scusi, è una notizia che viene da lontano? No, che parla un po' più lontano, nel senso che è la notizia della sonda Dawn della NASA che è arrivata a futuro. Ah, con quello... Vogliamo ricordarla e circostanziarla meglio, questa notizia scientifica importantissima? Sì, praticamente dopo anni di viaggio è partita, quando addirittura Plutone era considerato ancora un pianeta, nel frattempo addirittura è stato anche declassato. Come pianeta, perché sembrava così piccolo e faceva parte di una certa famiglia di corpi oltre Urano e Nettuno, diciamo. Vabbè, io non ne sapevo assolutamente niente. Io ricordo qua, solo però... un titolo che diceva Plutonia, cieli blu e ghiaccio rosso. È così? Non è proprio così. Ho sbagliato. È un corpo ghiacciato. Sono notizie che poi girano. Però scusi, Roberto, perché è una bella notizia secondo lei? Perché naturalmente è una bella notizia, progresso nella scienza. Sì, ma sicuramente è un progresso per la scienza. Magari c'è una certa dicotomia fra quello che stiamo vivendo, magari certe volte qua più vicino alla Terra, in questi giorni, eppure magari invece... l'essere umano è capace veramente di Va bene. Di arrivare su Plutone. La vera cosa che ci chiediamo è, forse è una buona notizia per noi, ci chiediamo se è una buona notizia per Plutone che siamo arrivati noi. Questo sarebbe bello chiederglielo. Augusto da Viterbo, buonasera. Buonasera ragazzi. Buonasera. Facendo vendite locali anni fa, quando si doveva sostituire la benzina col piombo. Sì. Come col piombo? Con la verde. Cioè la benzina col piombo senza verde. Di vita che disse queste esatte parole. Sarà peggio, perché mentre la benzina col piombo cade a terra, è pesante, e quell'altra ci sono i micropolveri e vola. Volevo sapere se è così o non è così. Ma chi la fa? Noi la domanda? Scusi, questa. Cioè, hanno chiamato un sacco di ingegneri, doveva farla prima, così facciamo rispondere agli ingegneri. Augusto, grazie, buonasera. Buonasera. Voleva concludere? No. No, volevo darvi gli auguri di fine d'anno e buon principio. E noi li accogliamo molto volentieri, la ringraziamo e ricambiamo gli auguri. Sì. Grazie. Patrizio, buonasera da Milano. Sì, buonasera signori. No, volevo semplicemente aggiungere che questo assessore Maran, che veramente per me è una persona abbastanza mistificatore, a dieta e inaffidabile, praticamente non solo ha permesso al car sharing di utilizzare queste vetture, perché evidentemente vi è anche un introito da parte del comune. No, momento. Che sono tutte momento. Vetture elettriche. Attenzione. Ma è un tassista anche lei, Patrizio? No, assolutamente. Beh, tassisti ce l'hanno con Maran, mi sembra un'accusa un po' troppo. No, adesso poi le spiego. Prego. Poi adesso ve la spiego. Sì. Anche perché vi dico, la stragrande maggioranza non sono vetture elettriche, ma sono delle Fiat 500. E quindi come tali non sono assolutamente delle vetture che non inquinano. Certo. Secondo, signor Maran praticamente non ha accettato che circolassero nell'area C o in Milano delle vetture elettriche normali in proprietà di privati, né tantomeno di vetture ibride, e che ormai sono un certo numero. Vi sì. sono vetture a gas che possono tranquillamente utilizzare questi Ma scusi, quindi lei, perché anch'io sull'uso, cioè sul fatto del car sharing, ero un po' critico, ho fatto la domanda a Maran, ma lei addirittura sta insinuando che il comune, siccome ci guadagna, non le ha fatte fermare per certamente. Quello? Certamente, e le dico di più, le edizioni 24 ore hanno messo fuori in questi giorni un libro che si chiama Arcipelago Aria C. Sì, ne ho sentito parlare, ecco, scritto da un giornalista e da un biologo che dicono tutta una serie di cose. È vero, va bene, questo diciamo c'è una tesi anticomplottista, o se vogliamo anche un po' complottista anche in quel caso lì, che tende diciamo a sminuire l'effetto del traffico sulle polveri sottili, tutto a colpa delle caldaie e quindi diciamo... via liberi tutti. Io non la penso esattamente così, però il diciamo giorno che chiuderanno le caldaie uscirà invece un libro, c'è tutta colpa delle macchine, perché su questo la vera cosa è che semplicemente che è più semplice fare, se bisogna fare qualche cosa si inizia dall'automobile e poi si vede, no, ma poi a sapendo Milano, benissimo che non serve molto. Dati ARPA, che pure è critica sul blocco del traffico, dati ARPA il 40% delle polveri sottili dipendono dal traffico, il 20% dalle caldaie in a città. Milano, in altre Lombardia posti, è il contrario. No, ma infatti è difficile sostenere appunto di dire che è un regolamento che è stato fatto per rompere le scatole ai cittadini, perché diventa un po'... che motivazione potrebbe esserci? Diego dalla provincia di Savona, buonasera Diego. No, niente, è cadutissimo proprio, suonava. C'è? Non c'è. Paolo allora, da Milano. Eccomi, pronto? Pronto? Buonasera, buonasera Paolo. Ciao, buonasera, auguri. Ciao, a tutti. Auguri. La mia buona notizia è che io faccio pubblicitario a Milano, ho una mia azienda piccolina media e per la prima volta da 3 anni le aziende hanno riniziato a investire, visto che noi siamo l'ago della bilancia, siamo i primi che veniamo tagliati quando c'è da ridurre i costi, è un segnale positivo che si reinveste anche grazie alla Renzi, mi posso dirlo non essendo io uno... No, non ho capito, ho perso un attimo, anche grazie a Renzi? Renzi sì, perché è onestamente è l'unico che per delle aziende medio-piccole ha permesso col Jobs Act di voi avete utilizzato nella sua azienda il Jobs Act? Assolutamente sì, sì. Assolutamente sì. Quindi sì. Mi scoccia un po' dirlo, ma è così. Perché le scoccia un po' dirlo? No, perché ho votato anni Berlusconi, è stato un grande incantatore di serpenti, non ci ha dato nulla. Beh, come è incantatore è buono anche questo, vai. Non è che Renzi... Sono d'accordo, però qualcosa, d'accordo con lei, ma qualcosa questo ha fatto. Almeno io ce l'ho nell'azienda e lo vedo. Vabbè, comunque è il buono, che è una buona notizia per tutti, diciamo, visto che la pubblicità è l'anima del commercio. Bravo, se l'anima bravo. Del commercio si sta rialzando, speriamo che si rialzi anche lo spirito. Speriamo tutti. Va bene, grazie, chiudiamo con Rosaria, vai, però in 30 grazie. Secondi. Rosaria, buonasera. 30 secondi, buonasera. La mia bellissima notizia parte da una notizia negativa, cioè che quest'estate mi è stato riscontrato il mio primo tumore maligno, devo dire, spero anche l'ultimo. Esatto. E devo ringraziare però sia i medici dell'ospedale israelitico che quelli del Fate Bene Fratelli, voglio salutare tutto il secondo piano del reparto di ginecologia oncologica, che mi hanno veramente salvato. Si è curata e sta bene, fantastico. Mi sono incontrato e mi sono trovata nella buona sanità, tutte bene. Persone stupende. Notizia ottimo, straordinaria. Ci tenevo a dirlo. Grazie, dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, domani diremo chi ci ha convinto. Apple di position, più. Direi. La signora. Sì, questa è in effetti sì, come bella notizia dell'anno, magari andiamo avanti anche domani. Ci salutiamo qua. Va bene. Ciao a tutti, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buona serata, ciao.